poi passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione. La Zanzara di Giuseppe Cruciani. Mettiamo gerani sui Balcani che tengono lontane le zanzare. Beviamo stasera, beviamo varechina, prendiamo l'autobomba e andiamo in disco. A Zanzibar, a Zanzibar. C'è il bar di mio fratello che si fa le perestroiche e beve solo vodka di lampone. Sì, lui beve solo vodka di limone. Solo vodka e metadone. Siamo qui per una nuova puntata della Zanzara, caro Parenzo. Ma perché fa così con la mano? In diretta, dico ai tecnici di sfumare, la canzone. La vedono solo sui combi di coto a casa, non vedono questa mano che si muove da direttore d'orchestra. Vedono. Barenboim della Zanzara è lei. Bene, siamo qui 800 24 00 24, in diretta anche su TGCO 24, sì, come al solito. E andiamo. Senti, oggi è la giornata delle inchieste giudiziarie. Sembra di essere tornati un po' a 92. Beh, se esageriamo. Beh, un po' sì, c'ho tutti indagati, tutti che si giustificano. C'è un Rutelli, per esempio, furibondo. Che non è indagato, furibondo. Però, no, assolutamente no. Con lui si è fatto una conferenza stampa dopo queste rivelazioni fatte dall'Espresso. C'è stato anche un battibecco col giornalista dell'Espresso. Lui ladro, noi persone oneste. Non si riferisce al giornalista, bensì al signor Lusi. Al signor Lusi. Sentiamo. Era un magistrato onorario. Vi pare normale? Pensavamo di avere la persona giusta e purtroppo era un ladro. Cos'altro vuole che dica? Stiamo parlando, girando attorno a questo da 3 mesi. È la verità, siamo la vittima, non mi fate diventare i co-colpevole, perché non lo sono. Quello è un ladro e noi siamo persone per bene. Poi spiega che i soldi sono transitati a questa fondazione e lui dice che poi non sono andati all'Apio, forse no, questo rimane un po'... Vabbè, quello era tesoriere. Rimane un po' vago. In ogni caso, anche se fossero andati all'Apio i soldi, non c'è nulla di illegale. Illegale, eventualmente, è quello che ha fatto Lusi, stornando dei quattrini. Comunque poi mette... a proposito della trasparenza dei bilanci dei partiti, parla, chiedetelo ai Verdi, a Rifondazione, alla Lega. Sentiamo. Cioè dice tutti colpevoli. Sì. Qui c'è Lusi, benissimo. Rispondiamo su quanti soldi si è fregato Lusi e su tutto il resto, però per favore la stessa domanda la fate anche agli altri. È troppo? Mi arrabbio? Non dovrei? E segnalo che la stessa domanda la dovreste fare, la dovremmo fare anche ai comunisti, ai rifondatori, ai Verdi che hanno continuato a prendere i soldi pur essendo stati buttati fuori dal Parlamento. Che ne hanno fatto? Ai partiti che hanno continuato l'attività, la Lega Nord, l'Italia dei Valori. Perché questa domanda si fa solo alla Margherita in Italia? Ma lo spiegate? Beh, c'è un motivo però, signor Rutelli, caro Rutelli. Il motivo è che solo in questo caso, non è escluso che sia successo in altri casi, c'è un personaggio che si sarebbe appropriato di denari per comprare case a uso personale. Dunque è scoppiato il caso. Poi sull'utilizzazione torbida dei soldi di un partito siamo d'accordo tutti, o comunque non particolarmente trasparenti. Sì, il problema è Lusi, appunto, non la Margherita. C'è una frase però top di oggi, che è questa della Camusso. C'era Susanna. Che non c'entra niente con le questioni dell'articolo 18 del lavoro, su cui ancora si discute. Con il governo Berlusconi le donne erano oggettini a disposizione degli uomini. Da Minoli, sentite. È una cosa straordinaria se pensiamo al periodo da cui veniamo, e cioè che ci sono delle signore che sanno interpretare ruoli importanti e non sono degli oggettini a disposizione del mondo maschile. Sì. Torniamo alle inchieste, ma abbiamo già un ospite collegato con Emiliano. Emiliano e le cozze, il sindaco di Bari, i regali ricevuti in difficoltà per alcune inchieste giudiziarie che coinvolgono alcuni rappresentanti della sua giunta, ma soprattutto imprenditori molto legati alla realtà barese, si giustifica in conferenza stampa in questo modo. Sentite, molto curioso. Io mi ritrovi una mattina ad avere una telefonata da parte di mia moglie che mi dice: vedi che qua hanno portato una valanga di pesce. E io ho detto: chi lo ha mandato? De Gennaro. Il caso voleva che io incontrassi De Gennaro ad un convegno nel suo albergo, proprio quello stesso giorno. e gli ho detto: scusa, ma che cosa hai combinato? Non c'ho manco dove metterlo io, cioè non mi serve neanche questo. Questa, perché hai fatto una cosa del genere? Abbiamo una parte di questo pesce nella vasca da bagno perché non sappiamo che cosa farne. Ha tenuto una parte del pesce nella vasca da bagno. E magari ci ha fatto pure il bagno dentro. Poi si scusa, dice non dovevo accettare. Lei ha mai fatto il bagno con il pesce, ad esempio? No, è una cosa da anni 80, è una cosa molto chic, anni 80. Fa il bagno con le ostriche dentro. È una cosa meravigliosa, champagne, ostriche. Grande casino in Rai per la vicenda, sì. Freccero. Facciamo riascoltare Freccero con il giornalista di Libero Borgonovo contro il direttore generale Lei. Via. Parano mi ha chiamato perché lei che vuole, tanto non verrà rieletta la lei, anche se è amica di tutti i pedofili, non verrà rieletta, capisci? Non verrà, i pedofili non possono aiutare, mi capisci questa volta? Quindi capisci, questa volta io sarò una iena col suo direttore, una iena, siccome chiama una iena. Non capisco cosa c'entri il direttore, comunque sì, cioè. Lei a servizio dei pedofili. Non si può fare solo Don Matteo. Voi avete l'idea, ma imparate della TV americana, questa qua è TV educativa, imparate, impari qualcosa a non fare il moralista e a fare il coglione a seguire i pedofili. Lei veramente è al servizio dei pedofili. Comunque, vedremo la battaglia. Sarà sangue e sangue scorrerà. Va bene. Grazie. Grazie, buona giornata. Il bello è che la telefonata finisce così, allora, grazie. Ci sarà la battaglia, scorrerà sangue. Allora grazie, va bene, alla prossima. Bene. 800 24 00 24. Culturalmente stai, fai silenzio un attimo. È con noi, sì, uno dei consiglieri di amministrazione della Rai. Non c'è nessuno qui in studio, no, lo vedo. Non c'è nessuno, è collegato per telefono. Antonio Verro, buonasera. Eccolo qua, buonasera. Diciamo subito, signor Verro, consigliere di amministrazione della Rai, che è l'uomo, diciamo, di Berlusconi alla Rai. Ma perché l'uomo di Berlusconi? Permettono a suo agio, diciamolo. Permettono, meno male che c'è qualcuno che metta i puntini sulle i. Cioè, Parenzo, no. Ma perché Parenzo deve dire così? Diciamo in quota PDL, essendo stato anche deputato per qualche giorno, diciamo che sono in quota PDL, di riferimento. Ma Verro, poi sono amico personale di Berlusconi, appunto. Posso dire, così come sono amico personale del suo collega che c'è lì, del che conosco da qualche anno, di Cruciani o di me o mio? No, tuo. Ma certo, Parenzo, ci conosciamo da tanti anni, certo. Non ti ho messo io alla Rai. È un pregio. No, mi dispiace per te, Verro. Mi dispiace per te. Ho detto semplicemente che lei è, decidiamo del tu fuori, qui teniamo la fiction del lei. Qui siamo lei è l'uomo, ma va benissimo, però le regole sono quelle. Lei è l'uomo di Berlusconi. Di Berlusconi è anche ambigua come cosa. E appunto, io contesto, non sono l'uomo di Berlusconi. Non è l'uomo di Berlusconi. Vabbè. Cioè, sulla Rai non ha mai ricevuto una telefonata da Berlusconi, signor Berro. No, che cosa c'entra qui? Ho ricevuto tante telefonate di Berlusconi dove abbiamo parlato di tutto e di più. Anche della Rai, anche della Rai. Ma certamente. No, nomine, cosa, nomine contro nomine. E detto questo, ho sempre esercitato il mio mandato rispondendo, sì, alla mia coscienza e a nient'altro. E quello si risponde questo, sempre alla propria coscienza così, in tutta la vita. Sì. Quello succede sempre così. Anche Cruciani, se avesse una coscienza, risponde. Beh, io sì, più o meno, piuttosto bassa. Però sì, ma posso fare una domanda? Ma lei come fa a sopportare parecchio? Tutti i giorni lo sopporta così? Tutti i giorni. Da lunedì al venerdì? Caro Verro, perché non ve lo prendete alla Rai? Scusa. È un eroe. Lei che ha potere di assunzione. No, non lo dica in giro perché non è così. Beh, un piccolissimo potere di assunzione. Assunzione alla Rai ce l'ha, perché non ve lo prendete? Io non ce l'ho, ma se ove mai un giorno l'avessi, sì, solo per fare una cortesia a lei, farei questa roba. Benissimo. Per cui abbiamo proposto, eccetera. Poi il curriculum, tanto lei ce l'ha, lo conosce dalla vita. Parenzo, senta, io le voglio subito chiedere una cosa, Freccero, per quello che ha detto in questa telefonata, che secondo me non è una telefonata carpita, ma è semplicemente la telefonata tra un giornalista e il direttore e un dirigente della Rai, cioè che il direttore di Rai 4, è una semplice telefonata tra un giornalista, non è carpita, non c'entra niente. Carpita, perché noi le facciamo spesso queste telefonate, non sono carpite. Sì, se uno si presenta, no, ma noi telefoniamo anche alle persone al volo dicendo sono di Radio 24. A quel punto quello però che esce fuori è uno deve rispondere poi di quello che dice. Allora, per quello che è uscito fuori, secondo lei Freccero va cacciato, sì o no? Io lo faccio subito diretta questa domanda, esplicita. Guardi, le rispondo direttamente che non lo so, sicuramente qualcosa va fatto, secondo me va aperto un procedimento disciplinare, per cui si valuterà la commissione dovrà valutare come, quanto, in che entità ha violato le norme e i regolamenti interni della RAI, le quali norme e regolamenti prevedono tutta una serie di contestazioni che possono anche arrivare al licenziamento. Ma secondo lei ci sono le basi per il licenziamento, sì o no? Avrà letto i giornali stamattina. Non ho precedenti in materia che ho trattato, oggettivamente riterrei di no. Per la violazione delle norme, nel senso che al licenziamento diciamo che ci si arriva gradualmente attraverso contestazioni, sospensioni e poi in caso di reiterate violazioni si arriva anche al licenziamento. Ma cosa fatto? Scusi un attimo, il fatto che una persona impegnata in una telefonata con un giornalista dica che il direttore generale, cioè che il suo capo azienda, espresso un giudizio, sia amica dei pedofili. Lei ricorderà che Santoro ha un altro direttore generale, l'ha mandato a quel paese. Vaffanbicchiera, vaffanbicchiera. Diciamo che lì poteva anche essere una cosa. Infatti dopo si è arrivati a una risoluzione del contratto con Santoro, successivamente, magari non per quel motivo lì. Ma infatti lì si aprì anche lì un procedimento disciplinare, eccetera, eccetera, che però non ebbe come conseguenza quello del licenziamento. Comunque, secondo lei non va licenziato, questo l'ho capito. No, io non dico che non va licenziato, io dico soltanto che in questo caso bisogna assolutamente essere rigorosi, applicare quello che dicono le carte e le norme del coso. Non penso che ci siano gli estremi per il licenziamento, ma glielo dico così. Opinione personale. Consiglio amministrativo della RAI. Cioè, non ci sono le basi per il licenziamento. Senta, ma quanto è arrabbiata la signora lei? Lei mi dirà, domandatelo a lei, sì, eccetera. Però... Questo mi pare chiaro. Vabbè, visto che questa risposta mi pare che non gliela posso dare, no. Secondo me è molto arrabbiata, insomma, se la conosco bene è molto arrabbiata, perché oggettivamente la telefonata di Freccero è molto pesante, è molto violenta. Ma perché è violenta? Ha espresso un parere. Adesso, abbi pazienza. Vede, questo è ancora... Scusi, ma allora... Dobbiamo assumerlo in Rai dopo che continua a dire queste robe qui, Parenzo. No, ma effettivamente lo sta. Ma verrò giudicato per quello che faccio, non per cosa penso di questo o di quel tizio lì. No, se mi sta sulle balle un collega, se mi sta sulle balle anche un capo. È piena di insulti, è piena di minacce, è piena di... No, di minacce verso Libero, non verso la RAI, verso Libero. Ho capito, ma cosa vuol dire? Ma è un dirigente della RAI. Un dirigente della RAI va in giro a minacciare dei giornalisti. Ma che a minacciare? Dice, volete la guerra, sarà guerra. Il direttore, ma RAI, ma non esiste. Ma chi c'è? Però scusi, Vero. Scusi, dove si può arrivare con le sanzioni, signor Vero? Però adesso, un attimo solo. Adesso ripeto, vado un po' a memoria perché non ho presente quello che dicono i regolamenti e il codice etico della RAI. Credo che si possa arrivare ad una sospensione come primo stadio. Sì. Se poi c'è una reiterazione, allora sì che si può arrivare al licenziamento. Senta, ma può rimanere secondo lei direttore di Rai 4? Licenziamento, abbiamo detto un altro discorso. Può rimanere direttore di quella rete? Secondo lei? Questo è un altro problema. E tenga conto che però io adesso non è che voglio scagionare Freccero. Non c'è ombra di dubbio che Freccero ha delle sue responsabilità. Nel senso che è lui il direttore editoriale, il direttore responsabile di Rete 4, però su prodotti d'acquisto tipo quelli di film credo che ci sia anche una corresponsabilità, non so dirle di chi, ma di chi deve controllare i prodotti. Cioè, secondo lei non andava acquistata questa serie televisiva che si chiama, ricordo, Fisico-Chimica? No, ma io non voglio fare il bacchettone, secondo me uno può acquistare tutto, il problema è che non la mandi di pomeriggio, non la mandi in fascia protetta, la mandi a mezzanotte. Ma perché c'è qualcosa di... Ma lei l'ha mai vista, scusi? Prego? Lei l'ha mai vista, Vero, questa fiction? Io non l'ho mai fisica. Vista, ma ho letto i giornali. Ma i giornali, quando però fai sesso esplicito, qualche bacio, un bacio omosessuale, però lei non l'ha vista, un bacio omosessuale. Posso dire, io a mio figlio non amerei che mio figlio a 13 anni la guardasse questa roba qui. Perché? Quindi presumo, ma perché che un bacio omosessuale, che effetto fa? Ma Don Matteo, che effetto va bene? No, ma non è che mi fa effetto, cioè, io posso dire mi aspetto che il servizio pubblico non mandi in onda queste cose alle 15, le mandi a mezzanotte. Cioè, a suo figlio di 13 anni, per esempio, farebbe un brutto effetto vedere un bacio tra due ragazzi, tra due uomini? Allora, io non so che effetto farebbe a mio figlio, perché ho figli più grandi. Io personalmente non gliela farei vedere. Cioè, ma perché? Una cosa che può provocare dei disturbi, incita l'omosessualità. Qualcuno ha detto incita l'omosessualità. Ma una follia pura. Io non so che cosa incita, io credo però nell'educazione di una volta che va gradualmente coltivata, sì, in modo tale che i ragazzi possano arrivare ad una consapevolezza di che cos'è il sesso, di come funziona la vita al di fuori della famiglia, accompagnati dalla famiglia stessa oltre che dalla scuola. Ecco, affidare questo tipo di educazione ad un programma televisivo, io francamente a mio figlio non glielo farei. Allora, traffico, torniamo subito, 800 24 00 24, per gli ultimi minuti con Antonio Berro, consiglio di amministrazione RAI. Dobbiamo dire quota PDL, diciamo, vabbè, quota PDL. Non è che diciamo cose false. Balla anche Luciano. Bene, bene, siamo qui in diretta alla Zanzara, 800 24 00 24, insieme ad Antonio Berro, consigliere di amministrazione della RAI, perché è scoppiato il caso della Frecciano. RAI, così pensavo della RAI. Della RAI, non della LAI, della RAI. Della lei. Della RAI. E voglio chiedere subito una cosa extra Frecciano, poi torniamo un secondo, sì, su Frecciano. Ma lei ha intenzione di restare anche dopo la scadenza di questo consiglio di amministrazione? Cioè, le piacerebbe rimanere a fare il consiglio di amministrazione della RAI? Beh, io ho rinunciato a un posto in Parlamento, quindi le ho già dato una risposta. Detto questo, poi non dipende da me, dipenderà dal Parlamento se riterrà di... Sì. Beh, certo, però non è disponibile, tutto. Mi pare, no, però no? Detto, ho rinunciato a un posto in Parlamento in previsione del fatto di restare alla RAI anche dopo la scadenza, sì, di questo consiglio, o sbaglio? Diciamo che è stato esplicito il mio atto. La rinuncia al Parlamento, sì, voleva dire che evidentemente dire, innanzitutto che Berlusconi le ha assicurato che verrà, sì, che verrà riconfermato. No, perché dice Berlusconi? Questo francamente, questa è una battuta alla Parenzo, da lei non me la sarei aspettata. Vabbè, ogni tanto sono influenzato. Si vede che stando con Parenzo la contagia. Sì, qualche assicurazione, ma qualcuno che male, ma chi è vero, Verrino mio, ma chi è che le può avere un'assicurata? Non certo il Padre Eterno o Don Matteo della fiction di Rai 1. Don Matteo. Beh, sicuramente, e neanche Frecciero. E neanche Frecciero. Frecciero, no. Sarà stato o Berlusconi o il signor Paolo Romani, ad esempio, o il signor Paolo Romani o il signor Berlusconi. Per forza. Ma no, ma voglio dire, diciamo che l'area culturale, esatto, alla quale faccio riferimento mi ha dato, sì, mi ha aperto queste possibilità. Le ha dato qualche assicurazione, diciamo la verità. Altrimenti uno non è che si dimette dal Parlamento così. L'area culturale. Così a babbo morto, diciamo la a buffo. No, diciamola tutta. A buffo. È legittimo, no? È legittimo. Non, senta, mi sono, ma secondo lei buffo, i tecnici della RAI, cioè della RAI, i tecnici al governo, si devono occupare della RAI, sì o no? È legittimo che se ne occupino? I tecnici inteso come governo? Il governo tecnico. Beh, certo che se ne devono occupare, anche perché, per esempio, già la Gasparri stesso prevede che il tecnico Monti, in qualità, sì, di azionista, debba nominare le cose, debba, certo, nominare un suo. Ma possono cambiare secondo lei la legge, oppure quello lo deve fare un governo politico? No, quello non lo deve fare un governo, né tecnico né politico, lo deve fare il Parlamento, sì, Parlamento, lo so, però può, sì, promuovere un governo tecnico. Ma promuovere cosa vuol dire? Può promuovere chiunque, però promuove e poi il Parlamento discute, elabora e va. No, ma certo, voglio dire, può essere da qui al 2013, alla fine della legislatura, si può fare questa cosa, oppure quando c'è un governo tecnico è meglio che lo faccia un Parlamento, allora, con un governo? Dal punto di vista teorico sicuramente il governo, sì, può promuovere. È chiaro che non fa un decreto, sì, promuove un provvedimento di legge e il Parlamento valuta. Devo dire che, onestamente, con tutti i casini che il, sì, paese ha in questo momento, sì, con tutte le priorità, il lavoro, l'articolo 18, lo spread che fortunatamente, sì, il tema della crescita, eccetera, che il governo, che, diciamo la verità, si basa su un equilibrio politico di maggioranza. Sì, è meglio che non se ne occupi, è molto chiaro. No, secondo me, poi. Sì, sì, no, sì, per carità, secondo lei, per forza, mica secondo. Cosa volevi dire ancora? No, volevo tornare un attimo su questa vicenda della fiction fisica. Lei non l'ha manco vista la fiction fisica o chimica? Dice che si è informato dai giornali, ma perché non l'ha vista? Ma non perché, francamente, io alle 2 o alle 3 di pomeriggio ho qualcosa di meglio da fare. Quando scoppia la polemica, cioè lei si è fatto un'idea della fiction solo leggendo i giornali. Esatto. Però di che parliamo? Ho capito, guardi, se vuole mi faccio dare la registrazione. No, della rete, però, mica per me. Siccome posso dire, credo che lei sia l'unico in Italia che difende quella roba. Poi, quella roba, posso, cioè, sì. Posso fare io una domanda a lei? Sì. Ma cosa cambia? Se questa fiction uno la manda alle 11 di sera o anziché alle 11 di sera, per Frecciero è fondamentale. Per Frecciero cambia, culturalmente. Per Frecciero è fondamentale, ho capito, ma Frecciero non è. Ma se il problema è un bacio tra un uomo e un uomo. Frecciero, secondo lei, vuole educare i giovani ad una omosessualità, a una cultura un po' bislacca? Ma Frecciero, allora posso dire, non so se voi avete letto il bellissimo articolo di Feltri oggi. Sì. Ecco, il fondo di Feltri, che io condivido e che vorrei, sì, riprendere adesso, sì, avanza un sospetto. Ma come mai una persona così brava a fare televisione, ed è verissimo che Fraccero è molto brava a fare televisione, sostenitore della libertà di stampa, della libertà di pensiero, eccetera, eccetera, si incavola per un innocuo articoletto. E che ne so, lei che ne pensa? Perché? Secondo me, a partire da quella categoria, a cui appartiene anche Celentano, che la libertà la pretende agli altri, su se stesso, ma la nega agli altri. E francamente a me questo non piace. Grazie, Verro. Buon lavoro. A presto. Saluto a presto. A tutti. Saluti. Giornale Radio, torniamo anche con TG 24 dopo le 19:15. Sai che non va la vita come ragazzo mio. Ci sono volpi di quelle stofanti di la mille topi, tutti per te. Le zanzare che pungono me sono le stesse che poi pungeranno te. E tutto questo perché con tanti galli che cantano non si fa mai giorno. Chi chi chi, co co co, cucuru curu curu curu, qua qua. Canti anche le sto cruciali. No. Questa è una tua specialità, caro Parenzo, cantare la mitica canzone di Pippo Franco. Galline rispondono. L'Alberto che siamo in diretta anche su TG24, se non vuole sputtanarsi definitivamente. Se i piccioni spariscono, tutte le papere piangono. Bene, bene. Cosa voglio farvi ascoltare? Casini, signor Casini. Casini, molti ci chiedono di rimandare ancora Sgarbi contro Parenzo. Beh, forse Sgarbi varrebbe la pena contro gli omosessuali. Un pezzettino varrebbe forse la pena. Però dopo, anche magari più avanti. Amici di TG24, no? Sì, ma no, ma l'hanno già sentito. Casini. Abbiamo salutato il signor Giordano, il signor Confalonieri, il signor Presidio Berlusconi. Ma no, quella è una specialità tua, quella di lisciare il pelo. Lisciare il pelo. Casini, fan di Twitter, perché su Twitter, come sapete, ha pubblicato una foto quando era in corso il vertice, una foto che ha fatto naturalmente notizia. Fatto notizia che poi c'erano tutti i fotografi fuori che aspettavano di fare questa famosa foto e il signor Casini ha bruciato li ha i fotografi che sono rimasti lì fino a l'una. Erano incazzati? Incazzati neri, li ho visti oggi davanti alla camera. Sì. Non so se può dire neri, ho detto incazzati neri, non so se può dire neri, chiedo scusa per la parola neri. Sì. Erano incazzati neri, chiedo scusa se ho usato la parola neri, perché sono rimasti lì ad aspettare fino all'una di notte di fare sta foto e il signor Casini col suo telefonino ha fatto la foto, ha tolto il lavoro ai fotografi. No, ma adesso è quella cosa seria, non hanno potuto vendere le foto loro perché c'era questa perché foto c'era su questa che tutti i giornali hanno pubblicato. Casini, ma no, io sono diventato un fanatico di Twitter, per cui ieri scherzosamente ho detto questa cosa, volevo fare una foto ad Alfano e a Bersani a dire il vero, poi dopo il presidente del consiglio diciamo ha accettato la provocazione e abbiamo delegato la foto al vice segretario generale che ce l'ha fatta. È un buon segno in vista di... No, è il segno anche che poi ci vuole anche un momento di pausa scherzosa, ma nello stesso tempo un modo di comunicare anche fotograficamente che c'è una maggioranza, non è sparita, nessuno ha fatto defezioni. Beh, è una foto, però il fatto che la faccia Casini, adesso io ce l'ho qua la foto, tanto molti di voi l'avranno già vista, poi la faremo, anzi, vediamo, facciamola vedere subito, ecco qua la foto è questa. Sì, chi è più che sorride, ecco, di più, Casini? Vediamo, facciamola vedere bene, voi non la potete vedere, voi no, che ascoltate la radio, cioè, ma l'avete vista Casini? Sicuramente. No, il vice segretario della presidenza del Consiglio. Che è stato delegato a questo, però la fa quello che ride meno è il signor Alfano, però qui ride meno. Cosa facciamo ascoltare oggi? Una giornata di grandi inchieste, a me non me ne frega niente di tutte queste inchieste giudiziarie che coinvolgono la regione Lombardia, poi Emiliano, poi ancora presidente della regione Emilia Romagna, anche no? Presidente della regione Emilia Romagna. Ma facciamo un Rutelli, la manica di cazzate pubblicate dall'Espresso. Poi uno dice che non si devono utilizzare certe parole, ma se le utilizza Rutelli le potremmo utilizzare anche manica, noi. La parola manica, via, effettivamente Rutelli. Non la usa. Mentre voi potete, non voglio polemizzare l'Espresso, che tanto è una partita diversa. L'Espresso anche nelle ultime due settimane ha fatto gli articolini sull'API, addirittura dicendo che dai fondi della Margherita noi pagavamo, avete scritto, pagavamo il sito internet di API. Avete fatto prendere un coccolone alla persona che se ne occupa, una cosa terribile. Avete scritto che noi siamo nei banchi vicino all'USI, e non è vero, che facciamo parte del gruppo misto, e non è vero, ha scritto una manica di cazzate, però insomma questo chiedo scusa, è un piccolo sfogo, non mi devo far provocare e non devo reagire male. Sai che non va la vita con me, chiedo scusa. I pesci di Emiliano com'era? Non era male, eh? I pesci di Emiliano. I pesci della Vasca. I pesci lo farei riascoltare, magari col sottofondo della cozza, di una canzone sulla cozza. I pesci di Emiliano. Le creatività. Io mi ritrovi una mattina ad avere una telefonata da parte di mia moglie che mi dice: vedi che qua hanno portato una valanga di pesce. E io ho detto: chi lo ha mandato? De Gennaro. Il caso voleva che io incontrassi De Gennaro ad un convegno nel suo albergo, proprio quello stesso giorno. E gli ho detto: scusa, ma che cosa hai combinato? Non c'ho manco dove metterlo io, cioè non mi serve neanche questo. Questa, perché hai fatto una cosa del genere? Abbiamo una parte di questo pesce nella vasca da bagno perché non sappiamo che cosa fare. Beh, meglio nella vasca da bagno che nel bidet, no? E per un riassunto delle notizie della giornata, con tutte queste cose che sembra di essere tornati al 92, vi facciamo ascoltare il TG3 della signora Bianca Berlinguer, la Berlinguer numero uno dal punto di vista dell'età, diciamo, no? Sì. Non voglio dire dal punto di vista, non c'è una gradatoria. Ah, lei dice, perché c'è anche un'altra Berlinguer, la Bianca, TG Com 24. Dunque, TG3 mette... dentro TG Com 24, dentro Mediaset, via. Buonasera a tutti. E adesso i titoli del TG3 di Bersani. Lavoro, la CGIL frena, le proposte del governo non vanno bene, dice la Camusso. Monti, priorità per il paese, Marcegaglia, attenti ai mercati. Accordo di massima su giustizia e lavoro al vertice notturno tra Monti e i leader di PD, PDL e Terzo Polo. Resta aperta la questione Rai, i paletti di Alfano. Casini posta su Twitter la foto dell'incontro a Palazzo Chigi e scrive: siamo tutti qui. Bersani, non basta un'immagine per fare la maggioranza e le future alleanze. PDL e Lega si spartivano i soldi, parla un indagato dell'inchiesta sul presunto giro di tangenti milanesi che vede coinvolto anche il presidente del Consiglio regionale, Boni. L'ex leader della Margherita Rutelli in procura a Roma per un esposto contro l'Usi e l'Espresso. Non mi faccio intimidire da un ladro, dice dopo le indiscrezioni sull'inchiesta. Palloncini e campane per il lutto nazionale in Belgio. Rientrano a casa le vittime dell'incidente sul bus nel tunnel in Svizzera. Una bimba ferita si sveglia dal coma. E l'attore americano è stato arrestato a Washington insieme al padre durante una manifestazione di protesta per difendere i diritti umani nel Sudan. Bene, siamo qui, 800 24 00 24. Fra poco arriverà un ospite. Intanto ascoltatori, Zara, eh? Ascoltatori, andiamo a Milano. Francesco, perché buonasera. Non ha fatto così con, cioè, gli ascoltatori? Buonasera Parenzo. Vada. Buonasera. Io volevo dire una parola in difesa di Freccero. Bravo. È veramente vergognoso che un uomo della sua qualità intellettuale debba difendersi contro l'accusa di questi sepolcri imbiancati, di questi asini, non mi viene altro modo di definirli. È vergognoso. Ma che cosa è vergognoso? Scusi, che cosa è vergognoso? È vergognoso che il fatto che lo si metta così all'indice. Adesso, ma quale indice? Ma di che sta parlando lei, Francesco? Quale indice? Di che parla? L'oggetto non è la questione tutta aziendale, se una fiction vada messa a una certa ora o no. Il punto fondamentale è la telefonata che c'è con il signor Borgonovo. Cioè, il punto è quello, nessuno mette in croce Freccero. Va benissimo, però se noi ci stiamo sempre a fare una Rai innocua, inutile, a censurare, a smorzare ogni... Ma nessuno vuole cancellare quella fiction lì, nessuno la vuole cancellare. Io non sto parlando della fiction, semplicemente mi rattrista, volevo solo dire questo, vedere una persona come Freccero... Messa così sotto accusa. No, ma scusi, perché lei non esprime solidarietà nei confronti del giornalista di Libero Francesco Borgonovo? Vabbè, o di Libero che viene attaccato in maniera furibonda dallo stesso Freccero con epiteti gravissimi detti a Borgonovo stesso e al suo direttore? Abbia pazienza, perché la prima cosa che le viene in mente è Freccero e non per esempio il povero Borgonovo che viene assalito in maniera furibonda al telefono da Freccero. Lei mi deve spiegare. Una reazione così. A lei la prima cosa che viene in mente è la solidarietà nei confronti di Freccero. Scusi, ma è Borgonovo, quel poveraccio di Borgonovo che viene insultato. Il giornalista è stato insultato come tanti. Ho capito, noi, però sarebbe immaginiamoci una situazione diversa, quella in cui c'è un giornalista, diciamo, di un giornale di sinistra, tra virgolette, o comunque di un giornale così. Sentiamo. Che viene attaccato con epiteti di quel tipo da un politico o da un consigliere d'amministrazione. Detto semplicemente o sarà da un la guerra, ma il linguaggio metaforico scorrerà del sangue, Tu sai benissimo cosa sarebbe accaduto. Eh? Sarebbe accaduto l'inferno. governo, si sarebbe parlato di fascismo, di libertà di opinione, qui nessuno prende le parti di Libero. Era esasperato. Questa è una vergogna. Fatto benissimo, è una vergogna, nessuno prende le parti di Libero. No, ma non ho detto che bisogna prendere le parti, tant'è che io non sto dicendo che non sto esprimendo nessuna solidarietà, perché la solidarietà non mi piace. Sto dicendo che chissà perché all'ascoltatore ha invocato la chiusura di Libero il signor Freccero, era incazzato per questa cosa. Poi magari ha sbagliato i toni, ma non ha detto quel giornale va chiuso, quella trasmissione va chiusa. Ha sbagliato i toni. Io non faccio ha sbagliato i toni. Ha parlato di ma non ha chiesto la chiusura di Libero, lo capisci? Il direttore generale Rai potrà essere attaccabile su mille fronti. Dopodiché quando uno dice che è amico dei pedofili, secondo te è una cosa normale? Freccero ha chiesto la chiusura di Libero, forse. Qui ci sono persone che invece hanno chiuso trasmissioni televisive e hanno messo in uno sgabuzzino per anni il signor Freccero. Questa è la verità. Ma cosa c'entra? Il signor Freccero è stato sbattuto in un gabuzzino, così sgabuzzino. Ma tu stai parlando di un'altra cosa. Ha detto chi c'è qui? Dov'è Freccero? No, non l'ho messo lì in uno sgabuzzino. Scusa, Berro prima è stato molto chiaro. Signor Berro è stato chiarissimo. Lui la pensa in un certo modo sulla fiction e io non la penso come lui. Hanno ostracizzato Freccero dentro. Ma adesso tu stai rifacendo la storia di Freccero. Qui non c'entra la storia di Freccero. È un uomo esasperato, ha sbagliato i toni, l'ho detto, ma non ha invocato la chiusura di Libero. Scusa, non ha detto Libero va chiuso. Scusa, tu lavori per la 7? Se tu per Radio 24, se tu dici in una telefonata, perché è una telefonata a un giornalista, che la signora Marcegaglia è un'amica dei pedofili, cosa succede a te? Vabbè, da domani. Dimmi che cosa succede. Si arrabbia, il giorno dopo non lavori più qua. Era uno sfogo, ma sì, è evidente. Ma è evidente, è chiaro. Poi alla Rai tutto è possibile e si può dire anche che il direttore generale è amico dei pedofili, senza che succeda nulla. Era uno sfogo di ma io guarda, voglio bene a Freccero, però dopodiché uno deve ammettere che ha sbagliato. Siccome sono un uomo libero, ha sbagliato i toni, l'ho detto. No, i toni, non sono solo i toni. Però è un uomo esasperato che è stato messo in uno sgabuzzino. La borsa, anzi no, abbiamo la borsa, e poi c'è un grande ospite. Poi c'è un ospite 800 24 00 24, con cui parleremo anche di questa cosa qui. Per forza. Eccoci qui di nuovo in diretta alla Zanzara, 800 24 00 24. Cari ascoltatori, abbiamo con noi anche su TGCom 24, naturalmente fino alle 20, Maurizio Gasparri, capo dei senatori del PDL. Buonasera. Buonasera a voi, grazie dell'invito. E proprio Gasparri della legge, Gasparri, proprio lui. Ecco, siamo toccati. Non vuole che si tocchi la legge, Gasparri. Però tocchiamo Gasparri. No, ma anche perché si chiama Gasparri. È un po' orgoglioso di questo. Cioè, no, allora, non si tocchi la legge, ma Gasparri si tocchi. È stata molto contestata. Il fatto che dopo 8 anni dalla sua approvazione sia in vigore, ma che la Corte Costituzionale, che ha mutilato norme della legge Maccanico, della legge Mammì, delle principali non ha mai leggi toccato la sua? Non ha mai toccato la mia, è una soddisfazione. Poi cambierà pure quella. Però lei poi dice più dura meglio è, più c'è scritto legge Gasparri. Quanto le piace sapere che c'è una legge che si chiama legge Gasparri? Le piace o no? Perché fa soffrire quelli che mi contestano. E allora la loro sofferenza è la mia gioia. Che dicono sempre la legge Gasparri, la famigerata legge Gasparri. Ci sono 2 o 3 imbecilli di cui non farò il nome. Faccio l'acqua. Per esempio, chi Mario Rossi, Giovanni Bianchi. Vabbè. Che dicono. Allora io penso che quelli soffrono. Io quando la cambieranno sopravviverò. Quelli invece ogni giorno dicono c'è la legge Gasparri. Ma pensate al con la bava alla bocca, con la bava alla bocca. No, questo però deve dare ragione a Gasparri, perché secondo me quelli che dicono la famigerata legge Gasparri sono gli stessi che poi magari la usano per fare le nomine, per fare tutte le cose. Quelli che dicono. Ci sono anche quelli che hanno usato la legge Gasparri. Per esempio, c'è un gruppo editoriale che è il gruppo Repubblica Espressa, che era in dubbio se comprare una televisione o meno, perché i limiti antitrust poteva sfondarli. Grazie la legge Gasparri, che ha introdotto un diverso criterio, hanno potuto con serenità comprare una televisione musicale che è di proprietà di quel gruppo, che potevano trasformare in una televisione informazione. L'hanno tenuta come televisione musicale, e mi dissero gli amministratori dell'epoca del gruppo, grazie ai limiti antitrust un po' più ampi della nuova legge, fatto questo acquisto che era borderline. Comunque lei sta dicendo che in passato fece un favore al gruppo delle Benedetti. Ho fatto un favore, ho creato delle norme, hanno potuto utilizzare anche il gruppo Repubblica Espresso, che riteneva che la legge fosse a vantaggio di uno vero liberale, contro altri. La legge sono un vero liberale. Perché si è aumentata l'offerta? Perché oggi, se uno c'è il telecomando a casa, non sa più che dove guardare. E le ore rimangono tra digitale terrestre, canali che si moltiplicano. Adesso siamo anche su un canale digitale terrestre, per cui si è moltiplicata l'offerta. La gente c'ha tanti di quei canali che dovrebbe dimettersi dal lavoro per diventare un telespettatore di professione. Ma chi glielo dà lo stipendio? Ma la ringraziare o no? Allora, alla fine, per questa possibilità, no, nessuno deve ringraziare. Non ha mai chiamato da Benedetti. per dirle grazie, Gasparri? No, non ha mai chiamato per ringraziarmi, no. Ha usato delle norme che servono a tutti. Questo dimostra che le norme non erano a favore di alcuni o contro. No, quelli che alcuni di lavoro li pagano per attaccarmi. Quindi io genero posti di lavoro. Ci sono alcuni che se non ci fossi non saprebbero che fare. Poi Berlusconi, questo è insuperabile. Però lei, perché il numero che... di persone che vivono attaccando Berlusconi è mille volte superiore a quelli. Lei viene al che secondo posto? No, al terzo. Tra i primi dieci. Tra i primi dieci più odiati. Da quelli di sinistra. Marco Re, per esempio. Marco Re. Successo a prescindere. La mia imitazione credo che sia uno dei personaggi che gli sono venuti meglio, quindi. Ma lei è contento di questa imitazione? Io ho sempre apprezzato l'imitazione, anche se in qualche caso è un po' corrosiva, però l'imitazione è l'imitazione. So che lui lo fa con odio e con asso. Ma si riconosce in questo? I difetti sono ben amplificati. Sentiamo un po' quello davanti alla televisione con la barba. Abbiamo proprio il filmato. No, abbiamo l'audio. L'RVM, come si dice. Sì, quella è l'ultima che ha fatto in un programma della Dandini. A Pinocchiere. Ma no, sono Serena Dandini, salve. Sì. Oh, ma ancora te? Ma te hanno cacciato, scusa. Ma che fai, ricicci? Risorgi come l'araba felice, sarà contenta Al-Qaeda. Senta, ma come sei Senta, Gaspari, ma lei, per esempio, è contento che la Dandini non sia più alla RAI? No, non sono contento, mi dispiace che c'è un'audience bassa, mi dispiace per la proprietà di La 7 che ha preso un una che gli abbassa la media. Un po' gode per questa cosa. Non è che godo, diciamo che vedere l'audience, ma ho goduto di più per il Madoff dei Parioli che la Guzzanti aveva contattato. Vabbè, non è la che sola, va ai centri dai, sociali a fare la pauperista, la barricadera. Ma non è però la sola. I tanti soldi che guadagnava li ha dati a un truffatore, a un investitore che ne sapeva, un investitore. Diciamo che questa notizia non mi ha rattristato. No, il fatto che lei ha perso dei soldi. No, perché rilevo che quelli che poi fanno militanti di sinistra poi usano non solo il capitalismo, ma il turbo capitalismo degli imbroglioni. Ma no, mentre uno si aspetta, non sapeva che era un imbroglione. Ma dovrebbe non rivolgersi. Era un investimento. Una che è così militante dei centri sociali dovrebbe dare i soldi a chi ne ha bisogno. Ma che ci fa? Magari li darà, che ne sappiamo? Intanto sappiamo che li ha dati a un truffatore. Ma, ma non lo sapeva che era un truffatore. Io la voglio tutelare, lei è anche giornalista professionista. Le arriva una bella querela dalla signora Guzzanti. Lei ha dato dei soldi suoi a uno che era un truffatore. No, a uno che si è rivelato un truffatore. Lei non lo sapeva. Dimostra che la cupidigia di guadagno, ma che c'entra la spinta ad essere poco selettiva, andava in una banca, andava in una banca normale. I suoi risparmi avrebbero rischiato. Ma lei dove li investe? Lei dove li investe i suoi soldi? Scusa, in una banca normale ai bassi tassi di interesse che danno le banche. Non si sarebbe fatto fregare dal Madoff dei Parioli. No, intanto non guadagno quanto la Guzzanti. E poi se uno va in una banca, sacchi la banca, se poi fallisce la banca. Ma c'è il mutuo, quello agevolato del Banco di Napoli, pure lei? No, Banco di Napoli della BNL. Io ho un piccolo mutuo. Anche là l'1,5%? Al tasso che mi hanno chiesto di fare, sinceramente. Veramente pago un mutuo decennale. Ma si sente un privilegiato per questo? No, perché guardi, credo che mutui con tassi diciamo di particolare attenzione, tante categorie, tante organizzazioni professionali li contrattano, certo, con le banche. Certo che è basso quello, certo che è abbastanza basso rispetto a... Io ho fatto un mutuo per una cifra molto limitata, perché era per pagare parzialmente una casa a mare. La casa in città ancora non l'ho potuta comprare, la comprerò quando faccio vedere questa foto, l'ho già fatta vedere, che è la foto di Casini, l'ha vista pure lei. Con le bretelle rosse. Alfano è un po' preoccupato. Mi dica la verità, questa maggioranza è rattristato con quella compagnia, deve essere pure lì. No, ma chi? Come Alfano? Come? E le vostre Alfano ha un'immagine un po' perplessa, perché uno potrebbe passare serate migliori. Sì. Ah, lei dice. Cioè, qua bisognerebbe fare trova l'intruso. Cioè, no? Uno va lì e vede Bersani, già siete prime. Casini che ride perché dice: oh, sto ancora qui, ho pochi voti, ma sto nel centro del sistema. Quindi Casini è contento. Monti dice che tocca fare campare, sono tecnico e devo sopportare. Alfano dice: sopportiamo. E Bersani pure dice: oh, pensa se adesso io ero il presidente del consiglio con tutti questi debiti pubblici, queste robe. Invece per fortuna, quindi questa è l'immagine. È una bella lettura, è una lettura però interessante. Il più soddisfatto è Casini che dice: oh, sto ancora qui, vi rendete conto? Non ci posso credere. Comando di nuovo. 30 anni in Parlamento, una percentuale che oscilla. Lei 20, 22. Io 20. Ecco. Una percentuale che oscilla tra il 3 e il 6% ed è al cuore del sistema. Cioè, in maniera anche rocambolesca. Guardi, cioè, merita il contrario del tapiro. Se ci fosse il contrario del tapiro, una specie di Oscar. Il Superman d'oro, insomma. Sì, sì. L'Oscar della politica. Il casino d'oro. Il casino d'oro. Il casino d'oro. Cioè un gran paraculo, diciamo la verità anche. Diciamo che uno, sa campare, sa galleggiare. Si è saputo muovere bene. Si muove benissimo. Si muove benissimo. Benissimo. Ma che futuro prevede per il signor Casini? Altri 30 anni di questa roba qua. Non sarà mai il capo di tutto, però se la caverà bene. Presidente della Repubblica lo può fare, secondo lei, o è difficile? Quello gli piacerebbe. Lui non vuole fare il Presidente del Consiglio per gli oneri della carica. Che il Presidente del Consiglio ha responsabilità enormi. La Presidenza della Repubblica è importante, ma non ha le responsabilità della Presidenza del Consiglio. Stringe mani, taglia nastri. Prestigio, influenza. Fa un discorso all'anno. Moral switch. No. Il Presidente della Repubblica, nell'ordinamento italiano, ha una serie di poteri sostanziali notevoli, senza avere gli oneri che ha il povero Presidente del Consiglio, chiunque sia. Quindi è una posizione assolutamente ideale. Questo lo vorrebbe fare. Questo qua invece che vorrebbe? Signor Bersani, che vorrebbe fare, secondo ha scampato, voleva fare il Presidente del Consiglio. Ha scampato il destino da direttore di una filiale delle Coop, perché Bersani a volte sembra uno che chiude la saracinesca alle 8, torna a casa, si mette le pantofole e vede la serie B su Sky. Ma perché la serie B su Sky? La serie B su Sky è bellissima. Ma ti dà un'immagine da sfigata. Piacenza in che serie sta? Ma invece uno che si dice Piacenza che no. Piacentino. No, sì, lo so, Piacenza. Serie sta, confesso l'ignoranza. Piacentino. Dopodiché il Presidente del Consiglio poteva farlo se si votava adesso. Adesso da qui alle elezioni a sinistra gliele cucinano, secondo me è bruciato no, dico che rischia dagli amici mi guardi Dio che dai nemici mi guardi Dio. Questo invece il signor Alfano che si occupa sempre di più di gay, il signor Alfano, con tutte le cose che ci sono, si occupa di banche e di economia e anche però, di gay, ha fatto un'affermazione in difesa della famiglia tradizionale, ma negli ultimi giorni, siccome io con l'altro ha riacquistato il quid lo ha riacquistato, sì, abbiamo soprattutto affrontato, posso dire una cosa sulle banche, io l'ho detto oggi sulle agenzie. Diciamo, appunto. Allora, se l'ha già detto, viene no, però lo voglio ridire. Se il Monte dei Paschi di Siena prende Profumo Presidente e gli dà milioni di euro, noi in Parlamento alle banche gliela facciamo pagare. Perché? E come gliela perché pagare? Il Monte dei Paschi di Siena è una banca pubblica controllata da Comune e Provincia di Siena. Sono soldi pubblici, non si scherza. Per cui, siccome è giusto ridurre le retribuzioni, come noi stiamo facendo, dei politici, ma dei manager, sarà una responsabilità del Comune di Siena, no? Siccome le banche vengono a piangere in Parlamento, se sprecano i soldi che sono sottoposti al vaglio dei cittadini, perché quella banca ha una maggiore azione, come gliela fate pagare? Con una grande severità normativa, non venga ad a piangere persona. Chiedendo ad bancas ad persona, cioè ci rimetterebbero pure le altre banche. Allora gli arriva una notizia inedita. L'altro giorno, durante l'incontro tra la delegazione del Popolo della Libertà e il vertice dell'ABI, c'era Mussari e altri esponenti delle banche, noi ce l'avevamo con Alfano, io, Cicchitto, Verdini, anche c'era Verdini, con Verdini le banche. Non c'era. Ecco perché con le banche Verdini qualche problemino l'ha avuto. Azzolini. Io a un certo punto, mentre si parlava dei compensi bancari, io ho detto, sì, a volte c'è stato profumo di esagerazione e c'è stato un momento di gelo, poi hanno riso e i banchieri, colleghi di Profumo invidiosi, ridevano più dei banchieri. Non hanno applaudito perché il consesso era serio. Lei salviglia con Profumo, con Monte dei Paschi di Siena, perché sono più ordinaria. Non sprecate soldi, perché il Monte dei Paschi non è che sta messo benissimo. Che il tetto qual è? Un euro. No, ma che un euro. È vero che ne ha presi un po' di buonuscita. Ha preso 40 milioni di euro, secondo lei. Ma è un uomo che è sul... Gaspare, è un uomo che è sul mercato. Il comune di Siena, il suo sindaco, avrà la libertà di decidere. Poi i suoi cittadini lo manderanno a casa. Perché Gasparri si deve occupare di Siena? Perché io sono un legislatore. Le banche vengono giustamente a confrontarsi. I cittadini daranno una bella scopola al comune di Siena. Hanno il dovere di non sprecare i soldi. Ma se così fosse, i cittadini di Siena puniranno... Consiglio a Monte dei Paschi un euro. Diciamo due, se sono di più, il nostro atteggiamento di legislatori, che i cittadini sarà ci dicono durissimo di esercitare in maniera severa nei confronti delle banche, diventerà severissimo. Senti, scusa un attimo Gaspari, ma il quid, fine Berlusconi l'ha detta sta cosa, diciamo la verità, anche se l'ha smentita, poi l'ha detta, diciamo. Mi hanno detto che Alfano se l'è presa molto, cioè ha passato dei momenti duri su questa cosa qua, cioè insomma è come aver ricevuto una pugnalata. Credo che è possibile che l'abbia detto nell'accezione berlusconiana, c'era un giornale che spiegava che Berlusconi avrebbe detto a questo giornalista che Alfano, ed è una constatazione banale, non ha la storia, il vissuto, diciamo, di altri politici che hanno avuto un corso solo. Però a volte lo stesso Berlusconi dice: ma quelli che stanno troppo tempo in Parlamento, che hanno avuto tante cariche, lasciamo lo spazio ai giovani. Quindi dico che Berlusconi poi deve decidere: vuole quelli che hanno un curriculum sterminato, e allora bisogna andare sul sessantenne, settantenne. Berlusconi vuole stesso. Delle persone più giovani. Cioè, sta dicendo che Berlusconi ha detto una stupidità, una cosa contraddittoria con quello che dice altre Berlusconi volte. Berlusconi spesso ha. Si chiarisca, si chiarisca Berlusconi. Ha detto: mettiamo persone giovani, cerchiamo di fare un ricambio. Gaspari, io condivido l'opinione di Berlusconi, innovatore. Poi se tu hai uno col cursus honorum, la mettiamo Andreotti, abbiamo risolto il problema. È imbattibile. Però bello, bravo. Senta, cioè, io non condivido. No, non ce l'ha. Scusi, però è Cruciani che sta. No, sì, ha ragione, non lo sto smanettando, sto io vedendo. Sono spenti. Sì. Per cui alla fine, quindi credo che Angelino questa vicenda, sì. Dico anche qui una cosa vera, sia stata uno stimolo a agire con maggiore incisività. La prima cosa che ha detto è sui gay, ha detto. No, ha detto sulle questioni delle banche, sulle questioni del lavoro, ha detto anche la difesa gay, della famiglia. Che la sinistra vuole il matrimonio. Io condivido. Ma la sinistra non vuole il matrimonio gay, ma non l'hanno fatto. Poi c'è stato l'incontro con le banche, c'è stato il vertice dove ieri mi ha detto una delle persone che era al vertice, che Alfano tra i presenti è stato quello più incisivo, ha tirato fuori il quid, ha cercato di tirare quindi fuori questo quid, un fuori. Giudizio vero o presunto fatto, si può trasformare, alla fine era diventato un titolo, esatto. Anche se fosse stato inventato, alla fine era vero, è diventata vera. È stato uno stimolo a essere con un quid in più. Benissimo. Senta, poi, ma se Berlusconi vuole uno col super curriculum, può sempre rivolgersi. Ma lei dopo 20 anni non si è scocciato? Si vuole ricandidare ancora? Io ho cominciato ancora a fare politica all'età di 14 anni. Lo so, ma non si è scocciato. Io sono un militante da 40 anni. Io sono militante, lo sono stato per molti anni fuori dal Parlamento, lo sono in Parlamento, continuerò ad essere militante se avrò il consenso in Parlamento. Senza, per cui lei consenso, l'idea di non ricandidarsi non la prende nemmeno in considerazione. Prima poi arriverà a questo momento. La prossima volta mi ricandido. La prossima volta si ricandida. Poi dopo vediamo. Senta, ma se lei vede la classica domanda che facciamo, due omosessuali che si baciano per strada, che effetto le fa? Ma dipende, io sono contrario alle ostentazioni. Se vedessi un uomo e una donna che dentro un autobus si mettono a fare effusione eccessiva, è inopportuno. Cioè, definiamo un bacio prolungato dentro l'autobus a calcare, a prescindere da due uomini, diciamo che la paccata, l'autobus ci sarebbe, come dire, qualche mugugno. Io sono contro tutte le ostentazioni che non hanno nessuna necessità di trovare spazio. E se fossero invece ostentazioni omosessuali ancora di più? No, l'ostentazione fuori luogo la trovo sbagliata. Le faccio un esempio. Quando c'è il Gay Pride e passano quei camion di gente seminuda che ostenta il Gay Pride, ma se ci fosse una cosa uguale di uomini o di sole donne che facessero sarebbe la stessa cosa, sarebbe uno spettacolo ridicolo nella stessa misura. Senta, ma i matrimoni gay no, sicuramente, sono nemmeno le unioni, una leggina, una roba io così non piccola. Io sono intollerante, ritengo che non si debba discriminare nessuno, ritengo che l'ordinamento dello Stato debba essere conformato a principi costituzionali che poi si rifanno al diritto naturale. Perché c'è il matrimonio tra uomo e la donna? Perché genera la vita. E dunque, se si ammettesse l'unione tra gay, si distruggerebbe l'umanità? Non si distrugge l'umanità, ma il matrimonio nasce dall'unione dell'uomo e la donna, perché è l'unione dell'uomo e della donna che fa generare la vita. Si rende conto, ma siamo solo noi a fare queste discussioni. Ma negli Stati Uniti non discutono di questa roba. Ma noi abbiamo l'ossessione dei gay. Io non ho l'ossessione. I politici dico che hanno non potrei una dei legge dei di quel tipo, però non è che vado in giro con i cartelloni a perseguitare nessuno. Non voterei una legge che istituisse l'unione di fatto, che se sono unioni di fatto, che gli importa di avere la legge? Uno si sposa o non si sposa, è una libera per scelta. Per lei manco le unioni di fatto, ma scusi, se uno vuole fare vuole realizzare un vincolo più significativo, fa il matrimonio civile, mica deve andare in chiesa. No, ma due uomini, cioè, possono... il matrimonio religioso, ma due uomini non possono. Allora, se serve solo alla unione tra gay, io sono contrario a una norma di questo tipo, punto. Perché dare gli stessi diritti? Ma perché è obbligatorio essere a favore? Se io e lei siamo fidanzati, non è il mio tipo. E poi... reciproco, è troppo volendo. Reciproco, ma se io e lei ci dovessimo mai fidanzare, no? E poi per caso Parenzo dovesse morire, vedi come sono politicamente corretto. E lei mi regala la sua casa e i suoi averi. Ma no, non in automatico. Non in automatico. Ma posso lasciare tutti i miei averi a Cruciani? E lo so che lei vuole Cruciani. Senza non di pazzo. Ma anche a lei non c'è bisogno. Se uno vuole dare dei beni all'ospedale, non si possono andare a trovare all'ospedale. Comunque, voglio sapere un caso di qualcuno che si è lamentato. Voglio sapere da lei questa cosa. Questa maggioranza qui, questa qua. questa qua. Transitoria e non eterna. Quanto transitoria? Però qualcuno dice, per esempio, signor Casini dice, beh, speriamo che ci sia anche dopo. Quel contesto là. Vado a quello che ho detto prima. Se non lui c'è questa maggioranza, un topo nel formaggio, così estende il suo. Allora lui che fa? C'è il 3-4%, poi si è unito con Buttiglione D'Antoni, sì, si ricorda, sì, e ha trasformato il 3-4% nel 6%. Ma chi era il capo? Casini. Poi ha beccato altri, adesso ha beccato Rutelli e Fini. Sì. Terzo polo, 11-12%, gli hanno portato voti pochi, anche Fini e Rutelli. Chi è il capo di questa roba? Casini. È di una furbizia spettacolare. In questa roba lui dice, io rappresento il 100%, sto io qui. La logica di Casini è questa, di poter gestire anche il consenso. Dunque per questo vuole la stessa io cosa anche per dopo. Misurarsi, se poi vince, ci arriva primo. Comunque lei non la vuole questa foto anche dopo il 2013. Basta. No, lei non la vuole. Sono per una visione normale di una democrazia. Cioè lei, il suo segretario qui accanto a un altro che è del PD, lei che c'ha in comune con Bersani? Lei che c'ha? Zero. Una cosa in comune con Bersani. Siamo entrambi parlamentari. Basta, l'unica cosa in comune. Siamo italiani. Vabbè, quello sì. Poi siamo eterosessuali. Vabbè, quello che vuol dire. Ci sono tante cose. Sì, però politicamente che c'ha in comune? Zero. Beh, state votando le stesse leggi, Beh, ne discutiamo prima, le modifichiamo. La cosa è molto complessa, non è che accade così facilmente. Ha visto su tanti provvedimenti. Sì, però la sostanza. Comunque, io voglio dire una cosa. È una fase di emergenza perché stava per saltare l'euro. L'Europa, la lira, è quasi come un dopoguerra in qualche modo. Sì, però, no? Gaspari, in qui voi non è... eccezionali si fanno cose normali. Questi stanno facendo delle cose che voi non potevate. No, non potevate fare. Al di là dei dati economici che sono negativi. La pensione che non voleva. Ma nemmeno voi. Le liberalizzazioni le hanno fatte loro, voi non le avete fatte, ad esempio. Noi ne abbiamo fatti di migliori, alcune sono state limitate perché Monti su alcune cose è un po' astratto. Pensa che prendendosela con i tassi si risana l'economia. Oh, qui abbiamo... Monti ha battuto Microsoft, io ho battuto Monti sui tassi. Ah, questa è buona. Perché qui abbiamo, cari ascoltatori e cari telespettatori e cari tassisti, il vostro leader, il vero leader vostro, non è il signor Bittarelli, ma è il signor Gasparri, è il grande leader. Allora, voi che siete in ascolto. Fermate i taxi. E siete in ascolto. Fateci sentire, chiamate Gasparri in questo momento. Fateci sentire a Roma, a Milano, in tutte le città d'Italia. So che ci ascoltate. So che ci ascoltate in tantissimi. Fermate il tassametro. E so anche che avete eletto come vostro nuovo leader, non quelli piccoli che avete là, signor Gasparri. Mi preparo una seconda vita da tassista, così se devo lasciare la politica, come lei, vabbè, diciamo, auspicava. No, una io cosa non pure abbiamo chiesto. C'ho una famiglia, devo campare pure io. Farebbe la patente, conosco le stesse. Lo farebbe tassista? È un mestiere lucrativo. No, guardi, quando cesserò queste attività, resterò militante non parlamentare e vado in pensione, perché io dall'età di 14 anni... Poi mi darà pure un po' di quattrini, piglierà la pensione. C'era una pensione, certo. Alta, 8.000 euro meno 8, di quello di 8.000. Guardi, rispetto a Profumo, nemmeno il cameriere. Ma chi c'è da Profumo? Ma io sono migliore di Profumo, sono più competente. Saluti il signor Giordano. Ho avuto risultati migliori. Saluti Mario Giordano. Mario Giordano, dov'è Mario? No, la televisione. Lo conosco Mario Giordano. A dopo. Ciao, a dopo, Mario. A dopo. Sui tassisti abbiamo messo la canzone sui tassisti, cari tassisti, abbiamo il vostro paladino qui. Cari non tanto, sono così cari. Poveri tassisti. Vabbè, cari, ma oddio, dipende. Però antitrust interviene. Dipende. Ma lei ormai quando gira per Roma e incrocia un tassista, succede che la riconosca? No, da sempre, io ho sempre difeso forze dell'ordine, sì, tassisti. Così a prescindere, diciamo. No, non a prescindere, perché non è che vende decine, è uno scopo sociale. I farmaci fanno male, si vede la ricetta, quindi incoraggiare il consumo di farmaci non è una cosa. Ma, se uno fa una farmacia non è che incoraggia il consumo di farmaci. No, ma lui sta dicendo più farmacia, come se fosse una roba. No, aprire al mercato anche la vendita dei farmaci. Ma la vendita dei farmaci. No, il farmaco contiene cose che possono anche far male, quindi vanno venduti con cautela, con il farmacista. Non è che come un succo di frutta che lo mette sul bancone. D'accordo, al supermercato. però e anche il succo di frutta, se non abusa. La proposta di mettere i farmaci di fascia, non mi ricordo, Fascia C. Al supermercato andava benissimo. Ma io sono contrario, sarà possibile come cioè anche le aspirine non vanno vendute. No, le aspirine già vengono vendute. Sto dicendo, però lui... Stiamo parlando di farmaci di fascia C. Il farmaco va venduto con delle modalità precise, perché l'abuso o l'uso non corretto di farmaci può determinare la morte. Se uno compra un succo di frutta in più, al massimo ingresso. La lobby dei farmacisti. Se uno compra dei farmaci in maniera inopportuna e li ingerisce, tant'è vero che i farmaci ci sono scritte, cartelline. Sì, se uno dovesse leggere i bugiardini non. Cari ascoltatori, giardini. Voglio farvi ascoltare una frase della Camusso pronunciata Camusso. Durante il programma di Minoli sulle donne nell'epoca berlusconiana, però non si capisce che cosa significa. Comunque la storia siamo margini. È la storia siamo la Camusso. Secondo alcuni parametri. Camus. È una cosa straordinaria se pensiamo al periodo da cui veniamo, e cioè che ci sono delle signore che sanno interpretare ruoli importanti e non sono degli oggettini a disposizione del mondo maschile. Sì. Nell'epoca da cui veniamo, cioè nell'epoca berlusconiana, mi pare abbastanza chiaro. Nell'epoca berlusconiana, le donne erano oggettini. Alcune donne impegnate in politica, Gelmini, Prestigiacomo, Carfagna e molte altre, hanno avuto la possibilità di mostrare le loro capacità. Io penso, ministri che hanno maneggiato la riforma dell'università, una roba molto delicata che spesso ha determinato anche scontri. Parlo delle donne che Berlusconi attraverso la politica ha valorizzato. Penso che quando ci fu il primo governo Berlusconi, per la prima volta una donna, Letizia Moratti, divenne presidente della RAI, designata dal Parlamento. Ha danneggiato o no? Sì. Molto? Abbastanza, un po'. L'immagine da Minetti. Almirante mai avrebbe candidato la Minetti. Siamo seri. No, ma allora c'erano le preferenze. Era un'altra epoca. La Minetti è stata eletta con un listino regionale dove non era sottoposta a preferenze. Con le preferenze forse... Secondo, io non ce l'avevo messa in quel listino, non è che ho difficoltà a dirlo, però io non discrimino le donne, molte che sono venute da una militanza che intorno a Berlusconi. Dunque la Camusso ha ragione formata, quando dice che ci sono state e ci sono donne validissime nel Popolo della Libertà. Ho citato alcuni ministri, potrei citare Laura Ravetto, potrei citare, poi io vengo da una tradizione politica che persone Nunzia come Giorgia Meloni ed altre persone si sono formate a una militanza la politica. Ma la Camusso ha ragione o no? La Camusso ha ragione o no? Quando dice una cosa a torto. La Camusso chi l'ha selezionata? E che ne so? La CGIL. La CGIL. E quindi vuole insomma, selezionare anche cioè, come la Minetti. È stata nominata dire, come la Minetti. Ho già detto che io non l'avrei messa nel listino, più di questo che devo dire della povera Minetti. Io mi sono preoccupato di sostenere il percorso politico di giovani militanti come Giorgia Meloni ed altre. Vabbè, che quando ho avuto la possibilità nei confronti congressuali e politici interni ho sostenuto. Ma nessuno ha paragonato naturalmente la Minetti alla Meloni. Perché la Minetti, casomai, adesso che tutti l'abbiamo criticata, potrebbe dimostrarsi molto più valida di potrebbe. Senta, che ne lei l'onere della prova. Che diciamo del signor Ingroia, che qui alla Zanzara l'altro giorno vogliamo farlo risentire un pezzettino? No, è il caso, tanto è chiaro. Ci sono due cose che ha detto: uno su Dell'Utri, la sua storia politica legata alla mafia, anzi nell'interesse della mafia, e anche Forza Italia è nata nell'interesse della mafia, secondo Ingroia. Poi ha parlato anche che non è un giudice ma è un PM, quindi già questo. Può rimanere magistrato secondo lei uno come Ingroia? Ingroia è un militante politico che non esercita con equilibrio la sua funzione e quindi a mio avviso dovrebbe essere valutata la sua posizione dal CSM con più severità. Uno che ha fatto di Ciancimino Junior un'icona antimafia, mentre faceva truffe Ciancimino Junior, mentre deteneva in casa 23 candelotti di esplosivo, Ingroia ne ha fatto un'icona. Dice, ma poi l'hanno arrestato quando l'errore è talmente grave ed era stato denunciato. Guardi, sul Corriere della Sera mesi e mesi fa era stata pubblicata un'intercettazione ambientale sul Corriere della Sera, non sul giornale clandestino, che dimostrava come Ciancimino Junior confessasse di gestire i soldi accumulati dal padre mafioso. Mica sarà stato d'accordo Ingroia. Ha commesso un errore talmente grave. Ingroia ha commesso un errore talmente grave che a mio avviso dovrebbe essere valutato con molta severità, cioè, non da me, dalla magistratura, dagli organi competenti. E cacciato dalla magistratura, se ci fossero gli estremi, fosse per lei lo caccerebbe. Per me è un militante politico, lo ha dimostrato andando a congressi di partito del Partito di Liberto. Io rispetto i miei avversari politici. Certo, se un mio avversario politico vedesse me militante politico poter fare di giorno il magistrato che lo giudica e di sera il militante politico, chiederebbe il mio allontanamento giustamente dalla magistratura. Io credo che Ingroia dovrebbe oramai abbracciare la militanza politica a tempo pieno. Ma io gli chiedo solo perché ha difeso la Costituzione del partito di Liberto. No, ha è andato al congresso. Detto che verrebbe anche al vostro congresso. Noi non lo inviteremo perché io mi vergognerei. Ma come un magistrato? Ingroia non deve venire ai nostri congressi, non ci verrà. Ma ci mancherebbe altro. Ingroia chieda scusa. Molti di voi sarebbe imbarazzante avere Ingroia. Ingroia deve chiedere scusa agli italiani per aver detto che Ciancimino Junior era un'icona antimafia. Attendiamo le sue scuse e chieda scusa. Se uno fa un errore, si scusa. A me può essere capitato nella vita. Non fanno parte del processo le cose che ha deve chiedere scusa agli italiani per l'errore che ha fatto. Poi ragioniamo. È un PM, poi non è un giudice. È quindi un può... poco. Com'è? Insomma, è un po' maldestro. PM. Un po' maldestro. Un PM un po' maldestro. Un PM un po' maldestro. Chieda scusa per un errore che ha fatto di un criminale una icona antimafia, il quale, grazie anche alle compiacenze, ha potuto visitare uffici dai quali ha attinto, l'ho detto, Ciancimino Junior, notizie riservate, ha potuto girare scortato e fare truffe. Io penso che questo sia quasi un concorso esterno nell'attività, perché di fatto cos'è il concorso esterno? Quando uno, non partecipando alle attività criminali di uno, finisce per agevolarlo. Ingroia inconsapevolmente lo ha agevolato, ma io credo che, siccome molti abbiamo detto pubblicamente che era Ciancimino, lui aveva il dovere di fronte alle denunce pubbliche e alle intercettazioni allora lui aveva notizie di questi comportamenti, le intercettazioni sono state pubblicate e nonostante ciò non ha agito con quella immediatezza per poi prendere i provvedimenti. Dunque, che sono tardivamente che cosa, diciamo, è metaforico, metaforico, cioè, il concorso esterno è un fatto di cui si discute molto. Andrebbe, io dico che Ciancimino ha goduto di un'impunità grazie anche al fatto che Ingroia lo avesse eretto con l'aiuto di Santoro e di altri a icona antimafia. Quindi sembra, ma Feltrinelli ha pubblicato un libro, c'è ancora nelle librerie Feltrinelli il libro di Ciancimino Junior, le lancio una proposta, c'è ancora, ci sono editori che dovrebbero chiedere scusa per avere pubblicato offerto una tribuna a uno che è un truffatore. Ma io avrei scritto subito un libro, però dobbiamo chiudere, è stato presentato, vede, lei potrebbe fare un libro con un delinquente e lo intervista e dice intervista a Provenzano, ma perché lei non avrebbe, ma lei pubblica, lei che è un giornalista professionista, non avrebbe fatto un'intervista col figlio diverso, di Don Vito Ciancimino. Se mi fa finire il concetto, allora un conto se lei che è un giornalista fa un libro intervista a Provenzano, la vera storia che è quello che ha fatto la potrebbe essere una cosa interessante. Ciancimino invece ha pubblicato un libro di autodifesa in cui veniva eretto a eroe. Ma no, l'editore ha consentito a quella persona di alimentare una versione falsa di un personaggio di malaffare che campa e si arricchisce con i soldi accumulati dal padre mafioso. Quindi è un editore che, come Ingroia, dovrebbe chiedere scusa ai lettori, certamente. Senta, invece con Freccero che ci facciamo? Rai 8, già l'ho detto. L'ho detto oggi. Ma non c'era Rai 8. Beh, credo che l'intervista, ho sentito le vostre affermazioni, la penso come lei. Uno che come insulta... Come lui, come Cruciani. Come, me, come lei, nel senso di Cruciani, come me, non come lei. No, dico perché la radio... La vedono anche a TG Com. No, per la quelli radio, che ci seguono dalla radio e non da TG Com, che sono più numerosi, penso. Sì, per fortuna. La penso come Cruciani. Uno che insulta e diffama i giornalisti in quel modo, libero, spero che lo querelerà e poi avrà, spero, ragione in tribunale. E la Rai non sta a me dire cosa deve fare. Se uno lavorasse nell'ultima tabaccheria italiana e dicesse del suo datore di lavoro quello che ha detto, ma per anni l'avete messo in uno sgabello, provi lei, come ha detto Cruciani, la politica l'ha messo in uno sgabello. Ma se tu dici adesso, Marcegaglia amica dei pedofili, io non lo penso, io non lo dico perché non lo penso. E allora, se tu lo dicessi, magari era una battuta, che è un'iperbole, facciamo una cosa, secondo lei andrebbe mandato via. Io farei come per i calciatori l'antidoping, a chi? A Freccero. Ma lo avete... secondo lei c'è un problema di quel no, tipo? No, che ne so. Eh beh, no, se dice l'antidoping, se Gasparri, anche a me, a lei, a tutti quanti, no, noi ci siamo sottoposti ai controlli. Lei lo dice perché noi ci siamo sottoposti ai controlli, no, si ricorda? Si sottopone, sì, come no? Facciamo alcuni si sono voluti. Io sì, sempre. Lei sì, perché secondo me sbagliando, perché era una gogna assurda. No, ma io è una cosa volontaria. Lo faccio anche Freccero. Se si sottoponga, però faccio un controllo. Alla Rai arrivano ancora conduttori di una certa area, per esempio la Costamagna recentemente, no? È stata protagonista anche di una bella battaglia. L'ha vista, con la signora... Non l'ho vista, ho visto solo un pezzo finale. Mi hanno detto che Mara Carfagna, a proposito delle donne in politica, ha tenuto, è stata bravissima, perché mi dicono che lei faceva l'insinuazione e gli ha detto, ma scusi, pure di lei dicevano che è stata aiutata da Santoro, ha fatto delle illazioni ingiuste, qualche parte della critica. La cosa che più mi ha colpito, e io guardo molti i dati dell'audience sui giornali, avendo fatto il ministro, seguendo la televisione, ha fatto il 3%, pochino Costa, Magna, ma fa poca audience. Adesso... Grazie a Maurizio Gasparri, grazie. Ah no, facciamoli solo sentire l'inno, in chiusura, l'inno del TGL. Canti con noi, Maurizio Gasparri! L'inno del TGL. L'inno del TGL. No, lo so a memoria o no? No, l'abbiamo sentito un paio di volte. No, caro a Milano e poi a Pomigliano. La gente che non pro invidia che odiare non sarà. Formazione politica. Sì. Berlusconi dice che vuole cambiare il nome del Popolo della Libertà. Sì. E poi ha scritto l'inno. E quindi allora vuol dire che non mi piace. C'è una confusione. Lei, lei, per lasciarlo, no, lei per lasciarlo. Io, a me il termine popolo mi piace. Il termine libertà pure. E perché bisogna cambiare? Poi se uno ne inventa uno c'è sta cosa del femminile, là lui dice là. No, perché ha ragione. Molti di tradizione democristiana non è meglio dire l'ADC. Ah, sì. Quindi gli parte l'APDL. L'APDL. Non è che no, pensa sempre alle donne Berlusconi, quindi è femminile. No, no, l'APDL. No, ma su questo si potrebbe fare un sacco di ironia. A me piace il popolo, la libertà mi piace. Infatti, perché bisogna cambiare questa idea di cambiare sempre? Bisogna cambiare il repackaging, si chiama. Sì. Ma lei lo canta lì, lo imparerà lì? Lo imparerò, lo trovo insomma medio come livello. Medio basso, diciamo. Medio basso. Guarda, gli partiti meglio faccetta nera, dica la verità. Era meglio. No, quello di Scilipoti è meglio. Quello di Scilipoti è bellissimo. Guarda, devo dire. A me fu. Lo conosce quello di Scilipoti? No, conosco Scilipoti. No, quello di Scilipoti, lo conosce. La sua vivacità. Ma lo conosce lì? No. Ma come lo conosce? È il migliore che c'è, lo dico senza il migliore in assoluto che c'è. Sì. Se l'inno è pari all'effervescenza di Scilipoti, sì, è sicuramente il miglior inno che ci possa essere. Va bene, grazie. Ma poi Scilipoti è un uomo inno, lui di per sé. Sì. Grazie, grazie, grazie. Pubblicità. Siamo qui, dobbiamo andare nel traffico, però voglio sentire un ascoltatore, poi abbiamo un grande ospite qui che non veniva da un po' di tempo, ci ha dato un po' di sole, un po' di fregature, però succede. Sì. Tra l'altro dobbiamo anche, sarà dura. Non dico scusarci, no, perché siamo dei giocherelloni. Sarà dura. Dei giocherelloni, però abbiamo messo in mezzo il suo portavoce l'altro giorno con una telefonata, signor Cuschera con una telefonata sì, che è andata in onda. Ha ricevuto una telefonata dal dottor Stiblitz. Sì, ha ricevuto una telefonata da un dottore, da un medico, dottor Stiblitz. Dal signor dottor Stiblitz. Perché ridi? No, c'era un dottore che voleva mettersi in comunicazione con Scilipoti, sì, ha chiamato la camera, sì, gli ha risposto il dottor Cuschera, anzi il telefonino, sì, il dottor Cuschera, però questo dottore non è riuscito a mettersi in contatto perché Scilipoti voleva il numero di matricola, poi curiosamente, era la camera. Curiosamente voleva il numero di siccome matricola. È andato tutto in onda, sì, quindi ci scusiamo per questa disperata. Signora Eugenia da Roma, la signora Eugenia da Roma, prego. Buongiorno, anzi buonasera. Buonasera, sì. Senta, io sono un medico e sì, a proposito delle sì, immagini che si vogliono sì, mandare degli omosessuali, devo dire sì, che tutti i giorni vediamo le distruzioni nei giovani. Perché? Per queste immagini? Per queste immagini? Per le immagini e per quello che si dice a proposito dell'omosessualità con tanta facilità. Mm. Si creano dei messaggi subliminari per cui la persona che non ha ancora, il giovane che non ha ancora una sessualità ben definita, diventa gay, diventa rosa. No, non bene, diventa gay, ma si incuriosisce, si incuriosice e prova. E prova. Come per la droga, se uno vede due che si fanno una canna, dai, prova perché è curioso. Non diciamo stupidaggini su. Allora uno vede Don Matteo in televisione, questo vuol dire che è quello che accade, l'esperienza di tutti i giorni a livello clinico. Ma scusi, ma allora uno vede, scusi, uno vede Superman e si vuol buttare giù dal quarto piano, ma che dice? Ma è una follia assoluta. Questo viene tutti i giorni, lei fa la sociologa, che fa la ricercatrice, che fa? Quando si parlava di legalizzazione delle droghe, i ragazzi pensavano perché era legale si poteva fare, non faceva male. Ma non è male. Vero, ma non è così, Eugenia, non è così. Sì, ma glielo vabbè, dico, ma secondo io lei è così, secondo me no. Esperienza clinica che lei può chiedere a qualsiasi medico. Ma lei è medico? Lei è medico? Un medico politicizzato che vede soltanto le cose non in maniera obiettiva e allora dice il contrario. Vabbè. E poi c'è un'altra cosa. Che cosa c'è? Che è molto molto importante. È che c'è, viviamo in un paese dove sì, la maggioranza degli italiani sì, più o meno sono cristiani e credenti. E allora? Allora, la legge di Dio sia nell'Antico Testamento sia nel Nuovo sì, Testamento è assolutamente, è chiaro nell'Antico Testamento il Signore nell'Antico, quando dice testamento, l'uomo testamento, non certo, deve giacere con l'uomo. Ma chi ci ma è uno Stato laico? Non siamo in uno Stato teocratico, uno lo vuol capire o no? Laico? Noi siamo in uno Stato laico, ma anch'io sono una laica, sono una donna sposata con due figli. E allora però c'è l'Antico Testamento? Una persona credente e dovremmo allora essere messaggeri di luce come Gesù prima di andare messaggeri a morire. Messaggeri di luce non è male messaggeri. Io Cruciani messaggero di luce non lo e vedo proprio che benissimo. Che cosa vogliamo fare? Stiamo soltanto lanciando messaggi di omosessualità sì, che è normale l'omosessualità. Ma lei è perfetta da predicatore, sa quei predicatori americani. Signora Eugenia, lei li conosce quei predicatori negli Stati Uniti? Sono meravigliosi, io li adoro. Io li adoro, perché lei non intraprende una carriera di questo tipo? Abbiamo il traffico, poi un grande ospite, resti con me, però resti con me. Il medico lo faccio molto bene. No, ma anche il predicatore non è male come mestiere, guardi, che le assicuro che forse farebbe anche un po' di soldini. Traffico, torniamo subito. siamo qui, ma sapete che sempre 800 24 00 24, signor Eugenia, resti qui se vuole, resti qui tra noi, che c'è una persona che mi sa che la pensa come lei su alcuni argomenti. Infatti io già, guarda, sono già... Sì, però adesso non scaldarti, guardi, subito, se no, non scaldarti subito. Guardi, c'è che una... ce l'ho proprio vicino a 2 centimetri. Ah, c'è il signor Bergassola che ha detto una cosa su un ospite che abbiamo qui accanto a noi, abbastanza, naturalmente scherzoso, eccetera, però credo con Danny De Vito l'altro giorno al programma della Dandini, ha detto: ma non potrebbe utilizzare Scilipoti per un qualcosa di pericoloso, così ce lo togliamo dalle scatole? Signor Bergassola, sentiamo. Senta, questa non la capisce nessuno, ma mi piace dirla. Voi attori vi fate sostituire da stuntman come controfigure. Come favore, nelle prossime scene pericolose, anche se lei non sa chi è, mi può usare Domenico Scilipoti? Che è un problema molto italiano. Caro Mimmo, buonasera. Buonasera a voi. Buonasera a voi. Musica, inno dei responsabili. Tutto in banca va ormai, tanto. L'unica idea. Ma perché va tutto in banca? Tutto in banca. Ancora tu, ancora me. È bellissimo, altro che. Per padri e figli, per chi ancora vedrà. Ma sa memoria ormai. Per un futuro. Per chi non c'ha l'età, socio onorario dell'MR. Un solo cuore, un'unica idea. Per questo mondo nata folle. Ma lo sai, memoria, una cosa pazzesca. Io la tessera onoraria, la tessera onoraria. Ma ha sentito Bergassola che la vuole, sì, la vuole comparsa in un film con Danny DeVito? Comparsa perché pensa di farla così, di trovarmi un altro lavoro. No, di liberarsene. Ah, di liberare, non l'avevo capito. Ma come non l'aveva capito? No, se quello è il senso. Non faccia adesso il... Non l'avevo capito. Cioè, vuole che lei era faccia così la contatto vuole lo usare... stuntman in, una, in un ruolo pericoloso. Sai, quelli che si buttano dal... Danny DeVito normalmente si butta. No, però no, siccome no, lei no. Dicono assomiglia a Danny DeVito, sì. Usiamolo per fare... Vabbè, se non hai capito che caso spieghiamo a fare. Ah, beh, sono detto, dai. Qua a spiegare le battute. No. Allora, ma no, che sta facendo in giro per l'Italia? Si sta combattendo su questa cosa della prima casa, dell'impignorabilità, diciamo una cosa seria. Una cosa seria. Contro l'impignorabilità della prima casa. Cioè la prima casa è impignorabile. Non si può toccare mai. In modo particolare nei confronti di quelli dell'Equitalia, che sono dei grandi... Dei grandi? Dica anche lei una cosa contro l'Italia, su. Delle persone non perfettamente corrette. No, Zamparini, l'altro giorno, sai che cosa ha detto il presidente del Palermo Zamparini? Delle persone che non sono perfettamente corrette. Sa che ha detto allora, Zamparini, che sono come la 'Ndrangheta. Si comportano in modo scorretto e creano delle conseguenze drammatiche ai nostri italiani. Allora, e dunque, la prima casa è impignorabile. Non si può toccare. Questo lo dico, dovrebbe essere impignorabile, anche perché... Ma quante case ha lei? Quante case ha? Ne ho due. Due? Cioè una perché era di papà e l'altra perché lo fa in Sicilia, sì. Tutte e due in Sicilia, sì. E a Roma dove sta? Sì. In albergo? In albergo. Quanto paga? Paga d'albergo? Pago in via eccezionale 90 euro a 90 notte. Euro bel albergo, buono, discreto, abitabile. Sì, abitabile. Quanto sta a Roma? Lei 4 giorni, 5 giorni? No, normalmente 5, qualche 5 volta anche 6. Anche 6. Ecco, il venerdì e il sabato, qualche volta, quasi sempre il venerdì resto qua per fare delle riunioni. Fare altri danni. Di settore. Cioè. Danni no. No, ti faccio per dire. Però l'ultima volta, per esempio... Che riunioni di settore. Esatto, vabbè, per esempio oggi abbiamo parlato di un tema importante che riguarda... Sì. Ma quando dici abbiamo chi? No, io ed altre persone, siccome lei non si ritira di persona, no, ma si ritira animale, no, effettivamente no, non può entrare in questa sfera. Scusi, effettivamente ha ragione. Qua la persone, no, effettivamente abbiamo parlato. Secondo lei lo considera un animale? Lei considera Parenzo un animale? Tutti siamo animali, no? Beh, tutti. Cioè, con l'eccezione di... Io vorrei capire a lei quanto resta dello stipendio da parlamentare alla fine del mese? Molto poco, quasi niente. Quasi niente? Quasi niente. Cioè, quanto? Posso dire perché? No? Quanto le rimane? Il soldo, cioè quanto le rimane? 100 euro? 50 euro? No, penso che riesco a tirare fuori 1.500-2.000 euro. Ma però, al mese. Cioè, male, sì, 2.000 euro se li mette in saccoccia? No, non me li metti in saccoccia, sono i 2.000 euro che mi restano per poter vivere, perché io... No, scusa. Allora, facciamo, ecco, no, per far capire... 5.000 euro di studio? No, ragione. Però scusi un attimo. Allora, io ho 3 persone che collaborano, anzi 4 persone che collaborano con me. Quanto i soldi da tutti regolari, tutto a posto? posto, regolare, sì. Con busta paga. Non è che come fare... Barbato paga, no, ha fatto con un busta casino. Paga tranquillamente, che si può verificare quello, sì, che sto dicendo, sì, che è verificabile. Quindi quattro uomini dello staff di non sono uomini, no, sono uomini, donne e uomini. Quando si dice uomini, mi sono uomini. Mi fa piacere che a lei piacciono molto gli uomini, però gli uomini sono eterosessuali. No, questo non lo sappiamo, lo dice lei. Da quello che abbiamo letto, abbiamo letto dove? Perché lei è un insulto. Lei è talmente, sì, non mi vuole fare, ma perché dice delle stronzate, è talmente retrogrado, scusi, parli vada avanti. A me, se mi date l'omosessuale, non è che mi offende, ma non volevo dire questo, ma non mi offende, però ti sei piccato, mi sono piccato, ma era una battuta, perché è fissato, ma era una battuta simpatica a un mio amico, ma era una simpatica, come i tori, ma era una battuta simpatica a un mio amico, ma va benissimo, intelligente. Quante persone lavorano con lei? Quante persone lavorano? Quattro, in questo momento ne ho cinque persone. Ma che fai? Ma che cazzo fai? Cinque persone, una persona. Cosa fanno? Uno fa il caffè. Mi aiutano a fare attività di sindacato ispettivo. Di sindacato? Attività di sindacato. Ma dove? Parli meglio di microfono. Non sai che cosa significa. Sindacato Ma che è sindacato ispettivo? Anche Cruciani non lo sa. No, un giornalista alla camera. Si chiama, in termine volgare, per far capire e far comprendere anche lei, interrogazione parlamentare. Abbiamo scoperto l'America. Allora parliamo in termini più semplici. Vabbè. Allora ci sono tre persone che lavorano a Roma, un'altra persona che lavora in provincia di Messina, un'altra persona che lavora a Messina, che si occupano di non soltanto di queste cose, ma anche di sentire le esigenze del territorio, di comunicarlo e attraverso la comunicazione che loro mi danno. Lei trasferisce in Parlamento tutte queste attraverso le attività di sindacato ispettivo, significa interrogazione, interpellanze, ordine del giorno. E poi lavoro anche perché mi preparo. In banca, quello, quanto riesce a quelle che chiedo scusa, quello che si chiama emendamento. Emendamento. Spieghi la Costituzione, la Costituzione, diciamo, i regolamenti parlamentari. Gli emendamenti molte volte non passano, molte volte non vengono nemmeno discussi, ma questo governo tecnico non è che non discute non discute niente, perché mettendo la fiducia non ha capito niente, cioè dire la gente non sa, quindi tutto lavoro inutile. Ma non è lavoro inutile, è il problema che lei quando fa queste battute cerca di delegittimare. No, ma non ha deciso nessuno. No, ma non vuole delegittimare lei. Delegittima il Parlamento, che dovrebbe avere un ruolo serio e dovrebbe lavorare nell'interesse degli italiani. Benissimo, però questo lavoro. Però vogliamo andare alla conclusione. Sì, no, ma questo è il ragionamento, è chiaro. Lui delegittima l'istituzione parlamentare dicendo che gli emendamenti non servono a niente. Lui invece serve, perché attraverso gli emendamenti che cosa si dovrebbe fare? Si dovrebbe tentare di migliorare la qualità della vita. Lo so bene, certo. Senti una cosa, ma quanti soldi rimangono in banca? In banca quanti soldi rimangono? Dello stipendio? Poi allora, stavo cercando di fare e di terminare il mio ragionamento. Io sono siciliano e vivo 5 giorni, 6 giorni alla settimana a Roma. Qualche altro giorno vado fuori. Per esempio domani sarò a Torino e dopodomani sarò a Pescara. Il tour di Cilipoti, cioè, non è il tour, è per fare questi tavoli, per raccogliere le firme, per parlare con la gente per incontrare e occuparmi di temi che lei poco fa non riuscivo a capire la parola tematiche, per esempio a Pescara ci incontreremo un gruppo di lavoratori che hanno lavorato per diversi anni in una industria di amianto e che qualcuno di loro è a rischio di vita, e allora questo mi sembra un fatto nobile. Io un parlamentare vada a incontrare queste persone, allora le sta facendo il conto, mi dia il tempo e mi faccia finire il ragionamento. Allora io pago, €90 solo per dormire ancora al giorno, sempre 90 per 5 faccia la moltiplicazione, non sono molto bravo, la faccia lei 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, quindi spende 9 per 5, non ha fatto 9, quanto, quanto spende 5 volte 9. Si può sapere quanto spende al mese? Allora questa è la somma, il 450 deve essere moltiplicato per 4 volte, perché 4 4 e quindi mezzo, quindi 450 a settimana moltiplicato 4 4 e mezzo. Poi che in cosa più, c'è? I collaboratori. No, in più i collaboratori, ma anche il l'alloggio, l'alloggio l'abbiamo conteggiato, l'alimentazione. Che le rimane in tasca, diciamo, come cosa che... Ma in tasca, guardi, niente, se, chi in fa banca, il che mette da parte? Quanto mette da parte? Niente. Chi fa il parlamentare seriamente e lo fa a tempo pieno, perché io da quando faccio il parlamentare... Lei ci rimette rispetto alla cosa da medico? Sì, perché da quando faccio il parlamentare non esercito più l'attività professionale di medico. E dunque ci rimette? Perché avevo i miei studi. studi, e ero un libero professionista, ero un libero professionista, nessuno, io ho scelto di fare politica, sono entrato in politica per due mie battaglie, cioè, che io ho cercato, non è l'agopuntura, l'anatocismo, mi dispiace, siete impreparati, l'olismo, siete impreparati, la mia prima battaglia era l'eliminazione, Mein Kampf, la mia prima battaglia, pubblicità, torniamo su, non si può parlare, la mia battaglia, no, la mia, le mie, le mie battaglie, pubblicità. Eccoci qui a Zanzara, 800 24 00 24, con Domenico Scilipoti, deputato di non so più che cosa ormai, perché popolo e territorio formalmente, però sempre movimento, movimento di responsabilità nazionale, quale popolo di Palestina e di Israele, quale popolo, sono io parlamentare del movimento di responsabilità nazionale, del movimento di responsabilità, questo lo sappiamo, però scusi, mi date solo un minuto ormai, non è manco più della maggioranza ormai, vota contro la maggioranza. Che gliene frega a lei? No, ma non è che non me ne frega, io devo servire il popolo, devo servire l'Italia. Servire il popolo, servire il popolo e servire l'Italia. Cioè tutto quello che può essere utile all'interesse degli italiani, io devo farlo. Lei deve servire il popolo. Devo servire il popolo. E che vuole il popolo? Come il popolo, che popolo vuole che cosa? Come si può interpretare quello che vuole il popolo? Vorrebbe stare, esempio, io vorrebbe stare sereno, vorrebbe un lavoro, vorrebbe la possibilità di poter vivere. Sì. Ma è generico, voglio... Scusate, mi fate dire che la voleva mia, dire, mi avete chiesto poco fa, mi ha detto, ma perché sei entrato in politica? Io sono entrato in politica per delle battaglie che camminavano parallelamente. Qual era la prima battaglia che ha fatto? Mi dica solo la prima. La prima battaglia che ho fatto e che sto continuando a fare qual è quella dell'eliminazione dei ftalati dai contenitori di plastica. Mi devi far finire. Dei fettalati, dei contenitori di plastica per uso alimentare. Che cosa significa? Che all'interno dei piatti di plastica, lo spiego in modo semplice, che capisce anche il nostro amico, che non mi ricordo mai il tuo Parenzo. Parenzo. Me lo scordo all'interno della plastica, all'interno di questa plastica che viene utilizzata come contenitori per alimenti, c'è questa sostanza che è una sostanza altamente tossica. Quindi io sto bevendo roba tossica, ma mi fammi finire di parlare. Allora a contatto con il cibo caldo, a contatto con il cibo oleoso, con il cibo alcolico, questa sostanza si libera e si deposita nel cibo. Poi che cosa succede? Che senza sapere questo rischio che il cittadino corre, mangia quello che c'è all'interno di questo contenitore, per esempio il piatto, o beve quello che c'è all'interno di questa bottiglia. Che cosa succede? Che questa sostanza, non da sola, ma insieme a tante altre sostanze, creano dei danni all'interno dell'organismo. E molte volte creano il primo passo per restaurare, per far sì che si instauri una patologia che potrebbe determinare una patologia degenerativa. Spiegartelo potrebbe significare una neoplasia, per essere ancora più chiaro, un tumore. Per essere ancora più chiaro, un cancro. L'altra mia battaglia è l'eliminazione di circa 60 sostanze altamente tossici presenti nei cibi. Per esempio, ce n'è una che è altamente tossica, che da sola non crea problema, ma insieme ad altri determina problemi seri. Basta fare il scienziato, non i deputati. Non è che uno deve entrare in Parlamento. Gli acidi grassi che si trovano all'interno di molti alimenti. Ma che c'entra? Ma quello uno che si trova all'interno di molti alimenti. Ma non è che uno deve fare il deputato. La differenza fra il deputato e il medico qual è? Che io come medico posso predicare quello che dico, parlare, consigliare. Intanto queste cose per adesso non so passare. Non è vero. Però basta, adesso ci scusa, come medico io posso consigliare, posso suggerire, però il discorso qual è? Che come politico potrei legiferare insieme ad altri all'interno del Parlamento e far sì che queste sostanze venissero aboliti ed eliminati dalla commercializzazione. Matteo da Brescia, sentiamo Matteo da Brescia. Signor Matteo, dica. È una cosa. No, salve. No, io parlavo, volevo parlare riguardo a quanto aveva detto la signora medico prima, no? Si ricorda? Sì. Sui gay, sì. Ecco, guardi, io faccio fatica perché sono veramente, sono veramente indignato che mi treme la voce, ma il punto è che la signora, faceva riferimento, a parte che mi sembra una cosa strana per dire un medico, perché un medico di solito uno pensa che parli di qualcosa a livello scientifico, e faceva riferimento al Deuteronomio, mi sembra, riguardo la Bibbia, dicendo non giacerai con l'uomo. Il Deuteronomio, sì. Poi? Ecco, nel Deuteronomio ha anche scritto che una persona non potrebbe mangiare crostacei perché sono impuri, no? Sì. Io vedo molte di queste persone bigotte che mangiano crostacei, quindi io dico, se quelle persone possono mangiare crostacei, allora sinceramente io posso anche, come dire, conosce cos'è, sa cos'è la fellazio? La fellazio, sì, più o meno lo sa, lei lo sa, ci ripeti cos'è, quindi, la fellazio? No, me lo spiega. Se non posso mangiare la crosta, io posso su... Po? Ecco. Non lo so. Non ho capito. Che può fare? Ma che non dice? Ho non capisco. Non si capisce, scusa. No, mi è stato detto la centralinista che dovrei evitare di esprimere in modo volgare, ma... No, ma non è volgare. Ma lei può dire quello beh, che però vuole. Però la fellazio non è volgare. Lei dice, si sente cioè, no, libero, lei si sente libero di... No, se quello può mangiare crostacei, io posso succhiare il cazzo. Ho capito. Non ho capito bene, però... Non ha capito quale parola, Cilipoti. Voglio dire cosa, lei una volta ha detto che mi sembra... Questo signore ad esempio è un omosessuale. Questo signore sì, si chiama, un attimo su adesso ci andiamo a questa storia qua. È un omosessuale che merita rispetto, ha capito? E tutti lo stanno rispetto a tutte le porcherie che sono state dette. Però prego il suo concetto. Scusate, ma è vero che i parlamentari rischiano di non prendere il caffè? Rischiano di non prendere il caffè? Sì, lei ha detto una volta come lo prendono il caffè se si riduce lo stipendio? Io. Sì. Cioè lei l'ha detto, lei Filippo, Domenico, ha detto Mimmo Cilipoti. No, non ha mai detto quello. L'ha detto. Il rischio di non prendere il caffè, no? Sì, rischiano di non prendere il caffè. Mi potete attribuire tutto. Dico, no, i parlamentari non si devono ridurre lo stipendio, altrimenti come lo prendono il caffè? No, io sono per ridurre lo stipendio ai parlamentari. Perciò dico. Dunque lei andrebbe in povertà così. Sì, ma nessuno, non è che mi obbliga il medico ad esercitare a fare il parlamentare. Mi dica la scelta mia. Il rapporto anale, andiamo al sodo qua. Il rapporto anale, ma perché è contro natura? Scusi, mi spieghi. Non mi spieghi perché è contro natura il rapporto anale? Visto che hai detto delle cose aberranti. No, io non ho detto cose aberranti. Io ho detto che per me la famiglia è composta da uomo e donna e due gay possono stare assieme senza nessun tipo di problema, no? Ma non sono per me una famiglia, punto. D'accordo, però no, lei ha detto lei... anche... Cioè, c'è di qualcosa di offensivo? Ho offeso qualcuno? Nello specifico? Lei ha detto che il rapporto anale è contro natura. Tra due uomini. Io ho detto... Invece tra uomo e una donna no, mi spiega questa differenza. Non ho detto questo, perché... Sì, come no? Ma c'è l'audio su... Ma quale l'audio? C'è l'audio! Ma come no? Ma quale audio? Cioè, io capisco che... L'ha detto lei? No, io ho detto che... No, io ho detto che il rapporto anale... È una cosa animalesca, secondo lei? Secondo me è contro natura. Non secondo me, è contro natura, punto. Ma lei non l'ha mai fatto, scusi? No, io non ho mai fatto. Non ha mai praticato? Non ha mai praticato il rapporto. Praticato io sì, io l'ho fatto. E io no. Lei l'ha praticato? Lei ha la sua merenda. Ma io non so, lei ha ricevuto o ha dato? Io ho dato, lei ha dato. Non ha ricevuto. No, mai. No. Lei ha ricevuto. Ma io di questo non parlo perché ho la mia privacy sessuale. Io le faccio le domande, stiamo parlando, lei è un interrogatorio. Lei ha dato, il procuratore. Cilipoti, ha dato o no lei? Ma che cosa? Ma da quel punto di vista? No, ho detto che non ho mai avuto un rapporto anale. Mai. E non sono stimolato dal pensiero perché di è una cosa animalesca, secondo lei. No. Ma lei l'ha detto lei. Cioè, ma questa è un'altra riflessione che lei sta facendo. Lei mi ha fatto una domanda. Io non ho mai avuto nessun tipo di rapporto anale. E non è nei miei pensieri. Punto. Perché è una cosa contro natura, secondo lei? Perché per me un rapporto anale sicuramente non è nella normalità. Non è normale. È anormale. Abbiamo capito che. Ma anche cosa, tra un uomo e una donna. Non è che ho detto che ho offeso chi lo fa. Anche tra un uomo e una donna è anormale. È un rapporto che è contro natura, punto. È contro natura. Perché lei ha detto anche un'altra cosa. Perché l'ano serve a. Lei non lo sa che cosa serve. No, io lei che è medico me lo spiega a cosa serve, non lo so. No, non lo so. Lei non è il dottore, il dottor Domenico Mimmo Cilipoti. Cosa serve l'ano? Non lo so, mi dica lei. Non lo so. A cosa serve? Forse a mangiare, a che cosa? No, a mangiare, a espellere. Serve solo a quello. Lei che cosa fa? Cioè, voglio dire, quel tipo di pratica sessuale secondo lei è animalesca? Lei l'ha detto secondo lei. Secondo me quel tipo di pratica sessuale da parte mia non è condivisa. Non è condivisa. Beh, ritengo cioè, lei la che non vorrebbe sanzionare, sia... no? Non voglio sanzionare io faccio delle riflessioni ad alta voce. Ma perché voce, ha detto che i gay possono amarsi, però questa cosa non la devono fare? Si possono amare, però non si devono congiungere, non devono fare sesso anale. Ma secondo me, dico io, quello che penso. Ma è una follia, se lo pensi. Conto, no? Perché? Cioè, lei cosa... Ma se stanno insieme, no, che devono fare? È quello che dice lei. Ma cioè, che obbligatoriamente due per stare assieme devono fare sesso. Ma saranno fattacci loro, ci ripoti oppure no? Ma che roba è? Ma per carità, ma non è che io voglio entrare in merito. Ma uno è libero di fare quello che vuole. Lei mi ha fatto una domanda. Per me, il rapporto anale è un rapporto che al di fuori dalla normalità. Okay, dunque, un uomo che sta con un uomo è poi contro se natura. Ognuno vuole avere, se c'è qualcuno che decide di avere un rapporto anale, uno di dare e l'altro di ricevere, sono liberi benissimo. Di fare quello che vogliono. Scusi, però se lei mi fa la domanda, lei mi sta facendo la domanda, io benissimo. Dico che il rapporto anale secondo me è un rapporto contro natura. La Cassazione punto. Ha letto un'altra cosa, ho letto alla Cassazione che cosa che, come risponde Scilipoti alla Cassazione? Beh, no, facciamo rispondere. Perché veda quello questo che è troppo, in, questo è troppo. Ci sono delle leggi della natura che non possono essere modificate da nessuna sentenza e da nessuna legge. Della Cassazione. Quali leggi certo. di natura? Perché la legge di natura quale sarebbe? Perché la legge di natura uomo, è che donna, per procreare deve decidere lei come bisogna fare sesso. Ma perché dice ma ti pare che Scilipoti debba decidere dove lo devo mettere? Ma in che mondo viviamo? Ma perché dici delle cretinate? Ma ti pare che Scilipoti deve decidere dove lo devo mettere? Ma tu lo puoi prendere come vuoi e dove vuoi e quando vuoi. Ma sei libero di farlo con uno, con 10, con 50. È un problema tuo. Lei sta io dico a fa bubù, a fa bubù, ma quale solo ma quale bubù? Io gli sto dicendo un'altra cosa. Io mi rendo conto perfettamente di quello che dici. Lei fa il legislatore? Sei tu che non ti rendi conto. Io sto dicendo e lo dico e lo ribadisco che il rapporto anale non è un rapporto fisiologico, è un rapporto non fisiologico. Poi tu sei libero di prenderlo, di darlo, di fare quello che vuoi. Io non entro in mente a quello che fai. Ma sicuramente non è un qualcosa di fisiologico. Poi che la legge perché la Corte di Cassazione vabbè, è quello che dice, ma la legge non può modificare la natura, che la natura. La traffico natura. Traffico, cioè, torniamo subito, procreare traffico. Procreare significa uomo donna se uno forza, non vuole procreare altrimenti l'umanità finisce no? potrebbe anche finire. Qualche volta vado a mangiare al ristorante, il caffè lo devo prendere, dico spesse volte ci sono un gruppo di amici che mi pagano la cena, qualche volta la devo pagare io oppure la devo offrire agli altri, se lei fa il conteggio vede che questi parlamentari tutto sommato questi soldi, questi grandi soldi non li prendono, che devi mangiare, devi vivere, cioè Danilo, non è che io a Roma vivo di aria oppure bevo soltanto acqua, ma devo mangiare, qualche volta cucino io, qualche volta devo andare a ristorante. Ma c'è una casa qui lei? La casa, non pago 8.000 euro come alcuni ministri, pago 1.200 euro, però dico fra con tutti. La cosa sul caffè l'aveva detto, ma lasciamo perdere. Io voglio capire una cosa, se lei vede per strada due donne che si baciano, che succede? Niente. Che effetto le fa? Nessun effetto. Nessun effetto? No. Però è anormale. Ma sono disperato. Cioè sua figlia quanti anni ha, per esempio? 9 anni. Se un giorno lei scopre che è omosessuale, che fa? La porta a farsi curare, che no, fa? No, rispetto... La porta da un dottore, che non fa? Non la porta in nessun posto. Cioè la visita lei, che fa, no? No, non la visita. Si preoccupa, però. Però come se fa delle scelte che sono diverse dal mio modo di pensare e che devo fare? Ne prendo atto, punto. Basta, non fa nulla. Fa tragedie, cose. Non fa tragedie. E che ne so? Che ne so con quello che dice. Ma con il linguaggio che usa rispetto agli omosessuali. Dice anche che lei ha nel DNA c'è qualcosa di Mussolini, ha detto. Detto questo, ho detto che siccome mi hanno fatto una battuta e c'era una fotografia che io avevo in una... È stato pure assalito dalle formiche giganti. No, questo no. È stato aggredito dalle formiche giganti. Non mi fate terminare una riflessione. Ma una no, riflessione sul tema dell'omosessualità, le sue mi paiono veramente eccessive. Ma perché c'è? Ma scusa, ma che c'è d'eccessivo? Cioè il fatto perché che io dica che la famiglia è composta da uomo e donna, ma quello... non può essere composta da due uomini, che cosa c'è di anormale? Il fatto che io dica che un rapporto anale non è fisiologico, che cosa c'è ma di anormale? Ma non è vero che non è fisiologico. Il fatto che io dica che l'ano serve... Il desiderio e l'attrazione. Che il fatto che l'ano serve fisiologicamente per determinate funzioni fisiologiche dell'organismo umano, che ho detto una cosa contro natura, che ho detto una cosa dell'altro modo, secondo ho offeso lei, qualcuno, due che fanno sesso anale sono dei peccatori? Ma io non lo so se sono peccatori, sicuramente fanno qualcosa che è contro natura. È contro poi natura. Se sono peccatori non lo so. Ma chi l'ha deciso che è contro natura? Io non riesco a capire. Perché fisiologicamente. Ma io vengo a romperle, a romperle le scatole per sapere dove mette il suo cosetto. Io non sto rompendo le scatole, io sto facendo una riflessione e dico che questa riflessione la dovrebbero fare tutti. Ma tutti dovrebbero fare e alzare la voce e parlare con grande forza e coraggio. Dire cosa? Se dovessero pensare quello che penso io, dirlo a grande, con grande forza e con grande coraggio, cioè, che una coppia, la coppia è formata da uomo e donna, e due uomini o due donne che stanno assieme possono essere una coppia, ma non sono sicuramente una famiglia. Lo dica con forza. Ma ora poi se ti piace o non ti piace, non se fanno sesso che fanno, se fanno sesso, ma fanno quello che vogliono, non mi interessa. No, lei ha detto che è meglio che non lo faccia. Ma io non ho detto che non lo devi fare, ognuno può fare quello che vuole. Ha detto, ma sicuramente i gay possono amarsi anche senza atti animaleschi, le ha detto. Certo, senza avere rapporti anali. E perché? Ma che frega lei? Ma questo è un mio pensiero, ma che vuoi? Ma vuoi condizionare il mio pensiero? Ma quale vuoi? Folle sei tu. Sei folle tu e chi viene dietro di te? Dietro di me non viene nessuno, ma è la sua. No, dietro nel senso. Cioè, proprio lei è proprio. Vedi che sei, mentalmente tarato. Poverino. Vedi che sei mentalmente tarato. Io mi riferivo dietro di te, nel senso che tu dici alcune cose e gli altri stanno al tuo gioco e sostengono il tuo modo di pensare, non dietro in quel senso che hai pensato tu. Sei ammalato. Se ci fosse un presidente del Consiglio omosessuale. Un malato. Se ci fosse in Italia un presidente del Consiglio omosessuale. O ammalato, scegliete. Eh? Come? Se ci fosse un presidente del Consiglio omosessuale in Italia, che sarebbe una cosa strana? Un presidente della Repubblica omosessuale? Sicuramente non sarei. Non sarebbe felice lei? Non sarei felice. No, perché sarebbe una tragedia. Cioè, non potrebbe fare delle buone leggi. Sarebbe una cosa contro natura. Non ho detto che non potrebbe fare. Ma lei che cosa le interessa cosa fa uno in camera da letto, Scilipoti? Cioè, c'ha tante robe su cui rompere le balle. Ma io non voglio. Ma è un uomo. Ma scusa, ma io. Ma chi vuole sapere quello che fai tu nella camera da letto? Ma tu vuoi fare quello che vuoi. Ma tu permetti che io sostenga il mio pensiero in conclusione. Diciamo qualcosa alla signora Concia. Diciamo qualcosa alla signora Concia. Che devo dire? Diciamo, i diritti mai. Diritti? Il matrimonio mai. Non ho detto, ho detto che una famiglia composta da uomo e donna, lo Stato ha il compito di garantire prima di ogni cosa le famiglie fisiologiche. Altrimenti? Cioè composte da uomo e donna, se no che succede? Io ho detto quello che dovrebbe fare, secondo me uno Stato dovrebbe garantire prima le famiglie che sono tradizionali in che senso? Che sono composte fisiologicamente da un dobbiamo uomo chiudere, donna, voglio sapere una cosa, la signora Tommasi, anche... la signora Tommasi che la facciamo diventare qualche cosa? Fate... Che cosa devo fare? Che ne so, esperta di finanza del Movimento di Responsabilità Nazionale? No? Lei è laureata in economia e commercio, alla Bocconi, si occupi... Vabbè, si occupi. Beh, ma è con lei o no? È con lei o no? È con lei? No. No, non è con lei. Non è con lei. Ma con me in che senso? Nel movimento? Nel movimento. No, nel movimento no. Ci sentiamo lunedì. Se ti piace così, cioè se ti piace questo spettacolo quotidiano, ma tienti questa roba qua. Ti piace così? Va bene. Tu devi stare zitto! La Zanzara, il titolo più di merda del mondo. Soltanto tu potevi inventarti un titolo del cazzo come quello. Soltanto tu. La Zanzara.